ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Sei un fascistello di merda. Ma che fascello, stava smetti, non dire cazzate. Sei ignorante come una capra. Esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella. Non vali un cazzo, sei un strozzetto mal cacato. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Bravissimo, ma che cazzo dici? Ottimo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Gioia. Aderisci anche tu al movimento Live Zero contro il sovraffollamento pubblicitario, contro il GR, contro il traffico, contro Sebastiano Barisoni e i suoi ritardi. Live Zero. C'è solo il podcast. Hashtag Live Zero, hashtag solo il podcast. Dimenticavo, andate tutti a fanculo. Buonasera a tutti, che ne pensate del mio look? Eh? Vi piace? Guardatemi bene. Guarda bene, che? Once again we hear them calling. Iniziate o no? E dai, che mi sta a pia sonno. Iniziate, cortesemente, iniziate per piacere, iniziate. Sta a capire, mi sto annoiando qua e sta a pia sonno. Sulla E45, direzione Batana Perugia. Iniziate, vi muovete, su, dai, dai. Muovetevi, iniziate, muovete, e andiamo. Io urlo la verità, @gmail.com. In collegamento da Roma, David Parenzo, eccolo. Buonasera, qui, eccolo, buonasera, qui. Cari amici, sei caldissimo, mi sembra. Possiamo già dire con understatement inglese, con la imparzialità che mi contraddistingue da cronista che ha studiato BBC, che Sine Ira Hack Studio no pasarán! Detto sempre, ovviamente, col mio solito stile distaccato, non partecipativo, degno del miglior giornalismo anglosassone. No pasarán! Cioè, ti manca solo l'internazionale a te oggi per festeggiare. No, ti manca solo l'internazionale. Voglio mantenere un cosa tono è successo? Hai mantenuto la Toscana. Io non ho mantenuto niente perché vivo in Lazio. Io ho fatto un'analisi semplicissima. Semplicissima. No pasarán. Ho detto usando anche, come dire, la consueto stile inglese del giornalismo terzo, non essere di parte, provare ad essere obiettivi, analizzare le cose con calma, pacatezza. No pasarán! Scana rimane una regione, la regione Etruria. Rimane una regione con i musei. E non lo so, però sai, rimane una regione con i musei, con che le spiagge, schifo, con le spiagge, rimangono le spiagge, rimane anche un senso sociale di vita insieme, nella quale l'immigrato non è considerato un elemento distorcente, è parte di una integrazione positiva e solidale che solo una regione come quella toscana è stata in grado in questi anni di realizzare. Insomma, un cooperativismo, diremo così, bonario, nella quale l'economia di mercato si sposa con l'economia sociale. Mettiti la mano al petto, che avete tenuto la Toscana, avete tenuto la Toscana, la sinistra, i comunisti, resta rossa la Toscana. Ma Gianni è un democristiano. Quale testa? Ma sì, Gianni è un democristiano. In ragazzi. Collegamento invece dal Zaistan, chiamarlo. Dal dominio di Zaia, Alberto Gottardo. Applauso. Io ho solo un messaggio per Luca Zaia. Abbiamo avuto qualche attrito in passato. Io gli voglio bene. Io voglio dire che a Luca Zaia voglio bene e che non venga e che non mandi nessuno a prendermi qui al Plaza, per cortesia. Ma che cazzo gli è successo a quello? Si è ingolfato? Che ha fatto? Guarda, nel momento in cui ha gridato. Nel momento in cui Gottardo ha detto ti voglio bene a Zaia, mi sono sentito male. Ma io mi arrendo. Io mi arrendo a Zaia e al suo potere incontrastabile. Che cazzo. Intanto il mio messaggio oggi, ragazzi, è questo: vince Zaia, vince la Meloni, vince Zingaretti. Aspetta, vince Zingaretti perché chiaramente per il sì al referendum, per altre serie di cose, e perde Salvini. Questo è il mio riassunto. Giusto, adesso non concordo, mi cagate il cazzo concordo. E vi beccate il governo Conte fino al 2023. Concordo. Blindato proprio così con le, no, con le assi. Però andiamo di ferro. Nel profondo, no, analizziamo nel bene profondo, i flussi, non mi cagate cazzo. No. Altri messaggi. Secondo, me faccio come Capezzone. Primo messaggio. Uno, secondo, due. Dov'è Capezzone? Dov'è che una volta giù doveva stravincere il centrodestra e invece no. E invece no. La Toscana resta rossa e Emiliano vince di nuovo. Tre. Terzo, primo, secondo, terzo. L'unica regione però che cambia sono le Marche. Alla fine tutti restano confermati, no? L'unica regione che cambia sono le Marche, che passa dal centro-sinistra al centro-destra. Se uno vuole e vedere che centro-destra? Beh, ho capito, è uno di Fratelli d'Italia, uno della Meloni, caro Parenzo. Uno che era un nostalgico e ha partecipato anche a una cena per la marcia su Roma. A proposito di nostalgici, il signor Leali, Fausto Leali, sempre più mito, al Grande Fratello parla di razza negra. Senti. Quando le lavate io nessuno tutti. Perché è negro non lo so. Perché è negro non lo vogliamo. Perché è negro non gli affidiamo. Ma che è negro? Nero, che nero. Ma dai, smettila, nero colore, negro è una razza. La razza negra. Siamo tutti colorati. Male. Ma allora che cosa faccio con la situazione Angeli Negri? Cancello? No, ti prego, però non dire più la parola. Mamma mia. No, nero devi dire, perché non, qua non è così la canzone, è nata Angeli Negri 80 anni fa, che colpo ne ho io? Ragazzi, ha ragione Leali, però, cioè basta con questa cosa delle parole, ne abbiamo parlato mille volte. Si può dire tranquillamente negro, certo, dai, sì, su, ma non c'è problema. Si può dire negri, puttane. Ma non è che ha detto negri di merda, ha detto negro, ha detto negro, basta, no, con questa storia. E come mai rideva? E come mai rideva dopo aver detto negro? Certo. Negro. Ma che c'entra, dai, su. Persino quelli del Grande Fratello VIP, che non è che sei all'Accademia della Crusca, hanno capito che questo aveva detto una coglionata. Persino quelli lo avevano capito. Pensa un po', lo cacceranno. Cioè, puoi dire tutto quello che ti pare, tranne negro, tranne Mussolini. Frozzo, è incredibile. Sì, certo. Senti il grande commento, il grande dibattito. Giovanni Ciacci, numero uno, senti. Non c'è una razza negra, non esiste. Non si dice, da un ragazzo esiste di la razza umana. Cose, come non si dice la parola frocio. Ciacci, ma se ti chiami in privato, dici frocio a chiunque, no, questa frocia. Ma lui frocia, lo può dire, ma anche lo può dire, ma non è vero, ma qual è importante il problema? Chi ma dice non le dire cose, cazzate. Lo diceva Nietzsche, ma, te l'ho detto mille volte. Ma non dire cazzate, dai, su. Cioè, un omosessuale che lo dice a un altro omosessuale scherzando è chiaro, ma che dai, è diverso, come la Parietti, no? Che dice lei, la Parietti, che non, a scuola si deve andare, non si deve andare con la minigonna, la Parietti. Giusto. La Parietti. Ma c'è fatto la carriera sulla minigonna, la Alba Parietti. Che dice che a ogni posto ha un luogo, che a scuola non è opportuna la minigonna. Alba Parietti, porca puttana, Alba Parietti che dice a scuola non bisogna andare con la minigonna, ma porca la puttana, ma com'è possibile? A proposito della polemica delle minigonne, è vero che ogni tanto può centrare il buon gusto, per esempio il luogo dove tu sei, sul bagno sta come le pare, in una scuola magari. In una scuola magari, dai, giusto, su, mi tocca dare ragione alla signora Collovati, la signora Caterina Collovati, grande combattente. Senti qua con la Parietti, senti. No, evidentemente lei si piace così. Poi saranno tante piace a gambe aperte, quindi vuoi dire? Ma, allora guarda, ma non è a gambe aperte, Caterina, allora, ma dai, magari tu Caterina dire quello che stai dicendo, che lei con quella foto è gambe aperte. No, io sto descrivendo, allora, no, cara mia, perché sono molto dire, più volgari le foto che molto spesso propongono le anche le tue colleghe, tu stessa dal bagno di casa, no? Ma sì, ragazzi, uno va su Instagram di certe persone che fanno la morale e vede qualsiasi cosa, dai, uno si mette a criticare la minigonna a scuola, ma di che parliamo? Dai, su. Parenzo, ti è passata la tosse per questa tua esultanza? Oggi quanto hai esultato quando hai visto, no, quando hai visto quel risultato delle proiezioni in Toscana? No, ho ragionato, sì, me l'hai detto a me nel privato, me lo hai detto, abbiamo taciuto. Adesso svegliamo tutto, eravamo prima a registrare qui alcune cose e hai detto, abbiamo tenuto, ce l'abbiamo fatta. Ma io ne vivo tu in Toscana, ne ho ruoli di governo. Non c'entra niente, facevi il tifo spudorato contro la Ceccardi. Dico semplicemente, hai anche detto tifo, della Ceccardi delle parole gravissime che ma qui non ripeterò. Hai detto delle cose gravissime. Ma figuriamoci. Ma lasciamo perdere. Fai un tifo sfegatato, hai fatto perché in Toscana vincesse Gianni. Ma io non ho fatto neanche un tifo sfegatato. Non troverai mai neanche un mio post contro. Non lo troverai. Perché non hai il coraggio di dire. Non lo troverai mai. Non hai il coraggio di dire che tu in privato facevi il tifo caso, per Gianni, insomma, e non per la Ceccardi. Adesso però fare il tifo per Gianni, no, mi sembra eccessivo. Non è un signore che scalda le masse preferivi popolari. La vittoria di uno di centrosinistra piuttosto che diciamo la Ceccardi, diciamo la verità. Gianni non è uno che scalda le masse popolari. Non c'entra nulla, facevi il tifo per centrosinistra in Toscana. Hai tirato un sospiro di sollievo. No, penso semplicemente che la situazione ora in Toscana porta una la mattina passo la mascherina sulla figa della mia fidanzata, così poi me l'annuso tutto il giorno. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Sono Matteo da Bassano del Grappa, sono appena stato a votare e ho votato per la signora Lores. Come dice Gottardo, autonomia e puttane. Woo! I love my radio. Parenzo, fottiti tu e il capodanno ebraico. Vaffanculo. Questa è la prima volta nella nuova trasmissione di quest'anno. Arriva a fanculo, pare. Cruciani, sono Gianluca il Piccio da Livorno. 20 settembre, apertura generale della caccia. Ho appena ricontrollato il mio semiautomatico Beretta, che tutto funzioni come si deve. Senti, questo era il mio fucile semiautomatico pronto all'uso. Dalla prossima settimana si rincomincia. Penne al colombaccio, fagiano alla cacciatora, pappardelle alla lepre. Cosa vuoi di più? Cruciani, quando vuoi a Livorno sei benvenuto. Vieni alla cena che facciamo tra cacciatori, ti garantisco che te ne ricorderai per tutta la vita. E già che ci sei, portati dietro anche quel morto di fame di Parenzo che quando c'è da magnà a gratis se viene. Gottardo, non t'azzardare, non lo vogliamo nemmeno vedere che ci fa troppo schifo quel ciccione. Allora ragazzi, intanto Pappalardo dice che siamo nella barbarie nazista. Pappalardo. Mentre il risultato si attesta ormai sul 3-3 nelle regioni, Pappalardo, i gilet arancioni sostengono che siamo nella barbarie nazista. Io vedo gente andare a votare però tranquillamente, scegliere, sì, appunto, esatto, scegliere delle regioni, scegliere nei comuni, esatto, i sindaci, i presidenti delle regioni, la democrazia nella normalità più assoluta, sì, poi sì, per carità, sì, si può criticare quello, si può criticare quest'altro, non ci sono caratteristiche militari nelle strade, io non esulto, non siamo nella barbarie nazista come dice però, Pappalardo. Attenzione, sta parlando però, Gianni, attenzione, ma chi se ne frega, ricordiamo, io urlo la verità @gmail.com. Siamo proprio nella barbarie nazista. Nella barbarie nazista. Qui siamo in un'era post-comunista e post-nazista che è veramente spaventosa. E ci sono ancora degli idioti italiani che camminano con le mascherine, che si fanno infinocchiare, che si fanno sottomettere, che si fanno mettere il basto al collo. Questo governo di criminali che noi abbiamo denunciato per i gravi delitti che stanno commettendo. La commissione extraparlamentare che noi abbiamo, ma quale? Abbiamo quale nominato, ha fatto una relazione di 140 pagine. Interessante, che dove ha rilevato delitti gravissimi a carico di Conte e del governo Conte. Questo è meraviglioso. Gravissimi delitti che abbiamo consegnato già a chi? Alla a solite cose. Questura. Alla questura di che? Alla questura di chi? Alla Digos di. Ma la Digos di dove? La Digos di dove? Di Rimini. Ma stiamo consegnando che di Rimini. No, però scusa, sì, mi sembra molto interessante invece. Cioè lui, ho capito bene, scusami. Sì. Esatto, cioè lui ha istituito, analizziamo un attimo, 30 secondi. Lui ha istituito una commissione extraparlamentare. Sì. Le brigate di Pappalardo. Ma che cos'è la commissione extraparlamentare? Le brigate di Pappalardo. Come vi permettete di coprirmi di insulti, dice Pappalardo, senti. Ma è un cretino. E quando il generale dei carabinieri dice scendiamo in piazza e cacciamoli via, vi venite pure addosso. Beh, lo coprite di insulti, ma come vi permettete? Ma non ti copriamo io di insulti. Io sto lottando per la vostra libertà. Chiamiamo i io medici. Sto lottando perché voi non siate costretti a vivere come schiavi. No, io grazie. Sto lottando contro questa dittatura sanitaria con tecnocratica. Dove vi stanno mettendo il 5G pure nel sedere, sotto casa vostra, dopo casa vostra. Ma che c'avete 5G in culo? E voi state a sopportare tutte queste cose. Ma che pecoroni siete? Ma scusa, ma tu hai il 5G, beh, ti senti il 5G nel culo, Davide? Non ho capito. Il punto G senti, nel culo. Cioè il punto G, sì, ma tu senti il 5G nel culo? No, per ora no. Sembra. No. Sì, giustamente, come dice Gottardo, qualcuno se ha il punto qualcuno, G nel culo. Sì, ha il punto G nel culo, cioè gode con il culo. Sali, ma il 5G non c'entra nulla. 5G non c'è. E comunque, ragazzi, io urlo la verità, @gmail.com. Scrivete, siete dei coglioni. Continuate a scrivere. Io urlo la verità, @gmail.com. Ah, io urlo, non sì. mettete l'accento sulla A. No. Io urlo la verità, @gmail.com. Dovete scrivere siete dei coglioni. Alessandro da Padova, dai. Alessandro, dimmi. Sì, no. Dimmi. Sto guardando i risultati delle regionali così. No, non si sente un cazzo. Gigio d'Alessandria, vai Gigio, vai. Dimmi Gigio. Ciao dimmi. Cruciani, ciao. Dimmi Gigio. Senti, volevo dirti una cosa. Sì, dimmi. Io non ce la faccio più vedere dei negri che pedalano sulla riva della strada. Sì. Senza mettili sotto, con la macchina. Mettili sotto con la macchina. No, c'ho il camion, non c'ho la macchina. Aspetta, però facciamo ordine. Dunque, chi è questo? Gottardo, fermo là. Ah, allora. Gottardo, è un testicolo del mio pene, però il testicolo sinistro. Aspetta, il mio destro me lo tengo. Sì, sono la tua orecchio destro. Dovete stare calmi. Gigio, voglio capire una cosa. Tu quanti negri, come dici tu, vedi, e come dice anche il signor Fausto Lali, sul bordo della strada? Sul bordo della strada senza catarina infrangente, senza illuminazione, con le cuffie. Con le cuffie. Guarda, non ne posso più, lavorare così. Che vuol dire non puoi lavorare così? Perché tu li vedi e che succede poi? Una volta che per forza, devi inchiodare, se no li prendi sotto, non ne puoi più, Gigio. Non sembra... ne posso più, ci vorrebbe Sua Eccellenza che magari metterebbe a posto le cose. Sua Eccellenza. Però mi sa che, a proposito di Sua Eccellenza, questa volta è andata male, è finita 3-3. Sua Eccellenza non è alle porte, mi sembra di capire. Anche fosse finita 6-0, non ci sarebbe Sua Eccellenza alle porte, no, per carità. No, no. Diciamo la verità. Però magari per qualcuno sì, sarebbe stata la vigilia del fascismo. Diciamo adesso 3-3 sono tutti calmi. Avesse vinto il centrodestra 6-0, Parenzo avrebbe detto: siamo alla vigilia del fascismo. Ma qua mai detto. Però torniamo a Gigio. Quanti neri barra negri vedi tu sul ciglio della strada? Quando guarda, ce ne sono tanti. Adesso c'hanno addirittura. Col bonus che ha dato questo governo di incapaci, girano anche col monopattino elettrico. Sì, sempre negri, eh? Ma sì, sempre negri. Che fanno questi ormai, negri? Ormai hanno monopolizzato le strade, le rive, i fossi, tutto quanto. è pericoloso. È pericoloso, capito? Se io ne prendo sotto uno, se io ne prendo sotto uno, vado in galera. Capito? Loro si possono permettere. Dovresti andare in galera per questo che dici anche. Ma loro chi? Che nessuno gli fa ma niente, cos'è il loro generico? Loro chi? Loro in quanto neri? Ma che dici? Ma vergognati, ma tu sei da arrestare. Nero sono io, loro sono negri. I negri. Mai ascoltato una canzone di Fausto Leali? Fausto Leali le piace? No, perché però da come sento Grande Fratello mi piace molto. Ha una buona visione della vita. Lei voterebbe Fausto Leali quindi se candidasse a qualche elezione? Io voterei Polegato. Perché deve capovolgere la scheda quando vota Polegato, sa? Deve scrivere Polegato a testa in giù. Ma tu sei un fan di Sua Eccellenza, mi sembra di capire, no? Sei un fan di io non sono solo un fan, io sono un grandissimo ammiratore e estimatore di Sua Eccellenza. Un estimatore, il signor Benito Mussolini. Ma tu sei il testicolo sinistro del mio pene. Sì, certo. Scusami, certo, Davide, questo signore può esprimere tranquillamente, secondo te, la sua opinione, la sua simpatia nei confronti del signor Mussolini? Può esprimerla, a patto che ci dica esattamente dove si trova, così gli mandiamo una volante della polizia, lo portiamo in questura, lo identifichiamo e poi gli togliamo la patente. Sono sull'autostrada A7, diglielo pure di venirmi a prendere. Allora si fermi lei al primo commissariato di zona e si autodenunci. Ma perché cosa? Scusa. Per apologia di fascismo, molto semplice. Non ho capito. Ma quale apologia di fascismo? Apologia di fascismo. Tu puoi essere comunista, io non posso essere fascista. Io intanto non sono comunista, se lo fossi però potrei esserlo, sì. Vabbè, te sei un sostenitore di questo governo. Ma no, io. Ah no, tu Cruci no, io parlavo con l'altro. Lei è anche un ammiratore di Cruciani, scusi. Certo. Non abbiamo altre domande. Fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-7171-701. Siete rimasti gli unici che ancora danno un po' di spazio a questo demente senile pagato dagli italiani chiamato Vittorio Sgarbi, un vecchio che come critico d'arte ci può anche stare, dai, ma per tutto il resto, qualsiasi cosa questo individuo dica è merda. Ma la vogliamo smettere di dare credibilità a questa gentaccia? Sono loro la rovina dell'Italia. Coglioni. Ma come si può dare parola a Sgarbi? Sgarbi, che non ne azzecchi una! Sgarbi, non è che gridando come un cane rabbioso legittimi le puttanate che dici. Puttanate restano e puttanate rimarranno. Sei un coglione, sei al tramonto della tua misera carriera. Fattene una ragione, sei morto, Sgarbi! Sei morto! E si sente già la puzza di cadavere in putrefazione. Sei morto, Sgarbi, sei morto. Dai, mettiti l'anima in pace, sei un vecchietto. Non fare il cane rabbioso che spara puttanate solo per ottenere un po' di visibilità. Hai fatto il tuo, basta. La vita eterna non esiste. Povero Sgarbi, demente senile di sto cazzo, pagato dagli italiani per non fare un cazzo e latrare. Ma vattene a fanculo, va. Allora, non ho capito, a parte che Sgarbi è uno dei grandi sconfitti perché il referendum votava no a spada tratta, anch'io devo confessarti, ieri sono andato a votare e ho votato no secco, ho votato stamattina e anch'io ho votato no, e dunque siamo sconfitti. Su quel fronte sicuramente. Su quel fronte usciamo però sconfitti. Possiamo fare delle analisi approfondite? No, assolutamente no, voglio sentire Carlo che chiama dalla Svezia e che credo sia l'ascoltatore che ha tuonato contro Vittorio. Ma tra un po' c'è la conferenza stampa del governatore del cazzo, mondo, dai, Carlo, dimmi di tutto. De Luca, Carlo, che è da mandare integrale. Buonasera Gottardo, Cruciani, non so se salutarti o no perché sei rimasto come detto prima l'unico che dà un po' di spazio a questo fenomeno da baraccone chiamato Sgarbi. Ma veramente no, Sgarbi è ovunque, cioè va da Porro, tutti, va in un sacco. Tutti fenomeni da baraccone così, poi peraltro, è arrivato come, lui, come ti permetti? Come ti permetti di dare il fenomeno da baraccone a Sgarbi? Come ti permetti? cioè, come di dove cosa? Definirlo, Gottardo? Scusami, dall'alto di sto cazzo. È una persona molto colta, è un grande istrione. Sì, e quindi può sparare cazzate. Ma quali sarebbero le cazzate? Urlare, quali sarebbero le cazzate? Quali sarebbero? Ma quali sarebbero? Ma così dici, genericamente così dici. Che diceva che dal 169 in Senato, Parlamento, dove cazzo stava, era l'unico essere intelligente perché la Carfagna l'aveva cazzato. Un po' di dignità, dai. Un po' di dignità. Accetta la sconfitta. Ma quale sconfitta di che cosa? Spiegami. Che è stato cacciato come il coglione che è dall'aula, trascinato in una scena pietosa. Che non sembrava manco, che cazzo ne so, un'opera d'arte assoluta. Quella ma là è un'opera d'arte assoluta. Dai, un po' di dignità. Comunque, la realtà è che tu in faccia non avresti il coraggio di dire nulla, Sgarbi. Ma guarda, se me lo vuoi passare, glielo dico tranquillamente. Guarda, pure, non so, problema. Forse è impegnato, ma non capisco che cosa gli vuoi dire. Forse impegnato, sì. Sì, forse è impegnato, ma non so che cosa gli vorresti dire. Resti sul generico. Ma che resto sul generico? Ma secondo te fai normale una persona come Sgarbi che vada a Barbara, per esempio, vada a Barbara D'Urso, ospite in trasmissione, allora? vai via tu vicino alla conduttrice, ma stiamo scherzando, ma dai. Che c'entra? Quello è spettacolo, ma come ma quello fa parte del mondo dello showbiz, non è nessuna accusa precisa. Sì, ma qual è l'accusa? L'accusa è che è un coglione. Coglione così, ma senza, cioè, qual è come devo dirlo così, un coglione? Sì, scusa, ma non è che lo dici, ma non c'è un punto preciso, cioè non è che lo stai criticando per qualche cosa. Precisi. Sì, per il ruolo che ha nella società televisiva italiana, che va in televisione a urlare, a non dire un cazzo. Sì. Cioè, sto dicendo più io adesso, non dicendo nulla, che Sgarbi quando va in televisione a urlare. La differenza è che tu sei il nulla, questo è il punto. Tu sei il nulla. Vabbè, detto da te, guarda, una medaglia al valore, Cruciani. Tu sei il nulla, perché posso non è da un Gottardo qualsiasi. Non hai nulla. Buonasera, grazie. Ma buonasera, tu non hai nulla da dire, questo cagare, è il punto. Il punto è che tu non hai nulla però, da dire. Però, cioè, non Giuseppe, scusami, Giuseppe, sì. Costui chiama dalla Svezia, no? L'islamizzata Svezia, secondo Donato da Varese. Ma è esattamente come racconta Donato da Varese lì in Svezia, oppure Donato da Varese è il risultato di una televisione fatta da personaggi come Sgarbi. In Svezia c'è la fine del mondo, non esistono tra poco che si la mattina e hanno paura di essere sgozzati. Queste puttanate sono il risultato di un certo tipo di fare televisione. Sì, vabbè. Non ho ancora sentito un'accusa precisa nei confronti di Sgarbi. Una non l'ho sentita ancora. È un coglione che fa il coglione pagato con i soldi pubblici. Vuoi sentire questo? I soldi pubblici. Fa il parlamentare. Va in Parlamento a fare lo show della Barbara D'Urso con i soldi degli italiani. Ma che c'entra? Quello è televisione. Perché uno non può andare in televisione. Non può andare in televisione. Chi lo dici? Certo, tu può andare in televisione, ma tu non vai a fare lo stesso che fa in televisione in Parlamento. Il Parlamento fa la persona come si deve, o almeno quello sarebbe l'intento. Fermo lì. Aspetta, resta lì, Gerardo della provincia di Salerno. Resta lì, che adesso lo chiamiamo. Gerardo, provincia di Salerno. Vai, Gerardo, dimmi. Ciao, Cucciani, mi senti bene? Sì, ti sento, dimmi. Bene. Senti, volevo dirti, ma quello che dice Fausto Leali è completamente controverso. Controverso. Negri, ma che vuol dire? Non è che lui dica i negri sono un colore, perché il nero è un colore, ma il bianco che cos'è allora? Ma che ne so, questo è ubriaco totale. Cioè, questo no, è che è ubriaco? E come? Cioè, ma sei ubriaco? Ma perché sei ubriaco? No, non sono ubriaco, è inutile che continui a dire ubriaco. Sei ubriaco? Non sono ubriaco. Ubriaco, non sai. Ma non sai. Ma non sai quello che stai dicendo. Ma non sai quello che stai dicendo. Che vuoi dire? Io ti sto dicendo che Fausto Leali prima, un attimo fa, ha detto che la razza negra, perché ma è un modo di dire la razza negra, che magari non esiste. La razza negra esiste forse all'etnia. Non esiste perché il nero è un colore. Invece, allora noi come ci dobbiamo chiamare? O rossi, no, a noi ci chiamano bianchi. Poi volevo dire, tu questa persona, e poi mi dici che non sei ubriaco. Vabbè, sono ubriaco come persona. Sei un povero gambusciato, perché ti limiti a finire la trasmissione con quello ce l'ha più lungo, quello ce l'ha più grosso, Rocco Siffredi, sono un debosciato, allora ce l'ha più bello. Ma che cazzo, ma scusa il termine, perché qua siamo Perché uno chiama? Ma perché lei è ubriaco alle 7:30 di sera? perché? Questo qual è il punto. La cosa che l'affligge. Ma perché biascichi? Perché biascichi alle 7.25? Perché biascichi? Perché sono così ubriaco? Ma c'hai la voce impastata, hai la voce impastata, hai bevuto, non si chiama. Ma cosa hai bevuto? Dire che c'ho la voce impastata, che cosa vuol dire? Sei confuso. Cerca di accettare che c'ho la voce impastata. Sei confuso. Poi, non è solo la voce, amico mio, non è solo. Vittorio. Pronto. Vittorio. Sì, ecco. Prima voce, secondo. Ma siamo. Grande sconfitta. Quale? No, amico mio, grande sconfitta. Tu sei uno dei grandi sostenitori, hanno vinto i grillini. I grillini stanno esultando come se fosse il trionfo. Cioè, poveretti, ti leggo quello che dice Di Maio. È l'inizio della loro fine, lo sapevo, ma tanto saranno loro a non essere più rieletti. Detto questo, se tu senti Radio Radicale... Anche tu, Vittorio, però sei fuori dai giochi. Forza Italia è crollata. Ma io non sono hanno tagliato di... ma che cazzo gliene hanno frega? Tagliato un ma terzo gliene, ma che gliene frega di Forza Italia, parlamentari non si rientri più in Parlamento, dai. Come? no figure chi entrano secondo te, i grillini? No, entrare in Parlamento sarà molto più facile. Certo. Ti spiego due cose. La prima cosa, l'intervista di Sgarbi come sostenitore del no, da Radio Radicale. Ma che cosa fate? Dico, io sono l'unico che in Parlamento ha detto il no, tutti ha detto sì, è inutile, vincerà il sì, quindi la mia previsione era che vincesse il sì. Adesso cosa capita? Elezione proporzionale, l'unica cosa che devono fare questi poveri deficienti è mettere la preferenza, perché altrimenti avere un Parlamento di nominati... Ah, sicuro, E quindi con la preferenza le persone che hanno valore, popolarità, entreranno. Cioè tu dici con 400 deputati e 200 senatori, quelli che sono, non possono farli nominati, non possono no, fare ma un... No, ma vorrebbero questo, vorrebbero queste teste di cazzo di grillini. Non solo hanno fatto questa cosa schifosa, esultano, ma non entreranno in 40, ma vorrebbero le liste bloccate. C'è qualcuno, forse anche fra loro, che per esempio, ecco, tu chiedi quello lì, Tizio Russo, no? Quello che è già russo, sì. No, quello lì che sta al Parlamento Europeo, ieri, parlando di questa cosa in una radio, non so dove fossimo, in una televisione, ha detto io sono per le preferenze. La preferenza, anche se sono meno parlamentari, è l'unica forma con cui Gottardo può dire voglio Sgarbi o voglio Luciani. Ma sì, no, certo. Giusto, hai capito? Quindi è molto meglio. La riforma bisogna solo puntare su... Se mi danno retta, l'unica cosa che devono fare con la riforma elettorale è dire proporzionale, con sbarramento al 3 o al 4 o al 5 preferenze. Senza preferenze è un'inculata di delinquenti e farabutti che vogliono essere nominati da Di Maio, schiavi di Di Maio. Sì, però Sgarbi, aspetta, abbiamo buttato via 30 anni. Aspetta un attimo. No, perché non è vero niente. Cioè, quella che è la storia, quelli che prendono le preferenze. No, tutte puttanate. Dire, è di tutti i mezzi. È vero che c'è ancora nelle europee. Ma certo, non vogliono dire niente. Certo. Sì, ma si raccontava che col maggioritario succedevano i miracoli. È una retorica, no. È la stessa cosa. Tutti quelli che vanno al Parlamento Europeo ci vanno in misura. Ma poi scusa, i comuni, il Parlamento Europeo, le regioni, tutte preferenze, adesso non si capisce perché in Parlamento no, ma tu allora che so, tutti i voti mafiosi quelli là. È un po' di retorica di Gottardo che si ricorda quando dicevano, certo in alcune parti possono anche... Aspetta, c'è Carlo dalla Svezia, eravamo però partiti con Carlo dalla Svezia, avanti, devo capire se Carlo dalla Svezia ha il coraggio di ripetere le stesse cose a Sgarbi, dimmi. Ma guarda, allora, buonasera prima di tutto, io quello che stavo dicendo, Vittorio, se parla d'aste perché ci hai fatto un pippone di un quarto d'ora sulla politica, evidentemente non capisci un cazzo, visto che ne sei uscito sconfitto. Detto questo, eccolo. Fermo. Adesso riprendo. Aspetta un attimo. Fineco è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Io sono stato con una cavallerizza di 23 anni. Non era proprio porca. Non ingoiava neanche. Per me a voi tre vi piace il cazzo. Da come ne parlate, con l'enfasi che avete, sicuramente a voi tre piace ciucciare dei cazzi. Ma come si permette di questo? Ma io lo querelo, ma come si permette? Ma che roba è? Tu quello mandi in onda anche, ma è una cosa pazzesca. Per me voi tre vi mettete lì a fine programma, inizio programma, e vi succhiate i cazzi. Ma come vi permettete? Ma che schifo! Ma come si succhiatori permette? Di cazzi! Ma io da quelle porto via tutto quel poco che ha! Tutto quel poco che ha! Che schifo! Allora, uno mi scrive: Cruciani invita un condannato per truffa ai danni dello Stato, ancora sì, con sta storia, sì, e quindi sì, di tutti noi sì, mantenuto a fare un cazzo in sì, Parlamento con stipendio sì, di 15.000 euro e che pretende di insegnarci i fatti della vita, rivolta evidentemente allo Sgarbone, una roba incredibile. Allora Carlo, non ho capito ancora bene qual è il punto fondamentale, perché non ho capito una allora, sega, adesso ti chiamo Sgarbi. Non hai capito, mi allora devi dire in faccia, volta, sei un truffatore, devi avere il coraggio che ti portiamo via tutto, ti portiamo via tutto, ti portiamo via. Ma che mi porti, che non c'ho un cazzo, che mi porti a me? Allora, io quello che stavo dicendo è molto semplice. Sgarbi, per esempio, adesso ci ha fatto 10 minuti di pippone, di analisi politica, per dire sostanzialmente che è uscito sconfitto dal referendum. Quindi già abbiamo appurato che di politica si può discutere. Ma non ho capito che cosa hai da dirgli che sta qua. Digli quello che pensi. Sgarbi, questo è un cretino che ti grida. È una vergogna che in Parlamento fa quelle scenate che le potrebbe fare in televisione, non in Parlamento pagata con i soldi pubblici. Che fa il coglione quando ma fa quella così, è un'opera d'arte, ma quella è un'opera d'arte, quella roba in Parlamento. Ma sì, quella d'arte che ha 10 visualizzazioni su YouTube quando parla d'arte. Ma non dire cazzate. Quando Vittorio, fa il coglione così, fa il coglione. Vittorio, ci sei o no? Vittorio, ci sei? Va bene, Daniele da Pesaro, vai, Daniele da Pesaro, vai, Daniele, forza, Daniele. Dimmi. Sono da Marotta, non da Pesaro. Sì, da Pesaro, Marotta, provincia no, di Pesaro, vai, dimmi. Ah, no, qui la musica sempre festeggiamo. Salvatore da Napoli, non sta bene Napoli, neanche questo. Nemmeno questo. Un altro ubriaco, probabilmente. Questo è un altro. Dimmi, Salvatore, dimmi. Ma questa è la zanzara, ragazzi. Pronto? Grande caos. Dimmi, Salvatore, dimmi. Pronto? Dovete finire di fare le cose contro noi napoletani, fobie. Fomentate sempre cose contro di noi. Ti posso solo dire una cosa: hai visto i risultati? Ma ti sembra risultati? Bene questa politica delle liste civiche? Ma di che sai, stai parlando? Io ti parlo di tutto. Questo mondo sta andando a puttane ed è colpa Fausto di da Viterbo. Fausto da Viterbo, vai, io ti parlo di tutto. È colpa delle liste civiche se il mondo va a puttane. Fausto da Viterbo, vai. Dimmi, pronto, allora io volevo dire un po' di cose riguardo la faccenda delle minigonne, perché Parenzo ha mistificato come sempre. E allora, io ho detto che sono d'accordo che se uno va a scuola, Posso parlare? Si deve vestire in modo adeguato. E quindi la minigonna non è da scuola. Per cortesia. La minigonna non volevo è da scuola. Cruciani ha ragione. E vi dico di più: i giornali mainstream hanno detto corbellerie. Perché adesso io vi dico la verità. Io conosco una ragazza del liceo in questione, del liceo Socrate, che mi ha detto che sono ma il punto non è questo, ma il punto il punto non è il singolo liceo. Ascolta, c'è Cruciani, stata no, questa ascolta, vicepreside che ha detto che non si dovrebbe andare perché altrimenti al professore scappa l'occhio, eccetera. Ma non era neanche così, Cruciani, era un'altra stronzata. Questo era un caso singolo di questa che aveva un abbigliamento. Personalmente c'è sti cazzi se c'è la minigonna, cioè saranno anche i cazzi suoi, cioè ragazzi. Certo, ma secondo Parenzo no, invece, secondo Parenzo c'è un dress code. Se uno va a scuola, ma certo, è normale, se tu vai a scuola non ti vesti come se dovessi andare in discoteca, ma che c'entra il liberale? Il liberale non è quello che dice tutto va bene. E sembri uno teocratico dell'Iran, per Dio. Ma quale teocratico? Scusami, se tu vai a un colloquio di lavoro, ti vesti in modo adeguato, non è che ti metti i jeans strappati, corretto? Che, ma tu hai un'idea delle persone che vanno a scuola come se fossero delle mignotte in giro, no, io ho detto solo che la minigonna di cui sono un fan assoluto a scuola non si dovrebbe portare, non è il suo luogo, tutto qua, ma non mi sembra di dire una cosa. Ma ragazzi, ti ricordi, David, quando andavamo al liceo noi c'erano queste quattro vacche con il contenti ma come parla delle donne questo qua? Ma perché dovrebbero essere vacche? Delle donne? Ma come si permette? Ma vergognati, il liceo con ma tu, la minigonna quelle che frequentavi tu che sei un disperato, quelle che frequentavi tu, ma perché dovrebbero essere vacche? Lo erano quelle del liceo che frequentavano. Ma perché devi parlare in questo modo delle ragazze? Erano così. Ma perché sei così maleducato di parlare così di queste ragazze? Anche i cognomi, ma per carità, ma perché devi parlare così di queste ragazze? Quello chi se ne frega di questo all'epoca. Adesso i costumi sono Riccardo da Roma, vai Riccardo, dimmi. Oh ragazzi, eccoci qua. Allora, andiamo subito al punto. Sì, dimmi. Io non scopo da 7 anni. Non è vero, dai. No, te lo giuro, Giuseppe. Posso dirti che non è vero? Giuseppe, te lo giuro, cioè, una cosa, ragazzi, ve lo giuro. Ma... sono dimmi, ma dimmi, scusami, dimmi. Sì, ma qual è il punto? Qual è il punto? Spiegami, qual è il punto? No, pagamento no. Ma il punto è semplicemente questo, che io per scopare... Ti masturbi? Ma quello ovvio, sempre. Però per scopare mi devo innamorare. Io non riesco a scopare senza provare un sentimento molto forte. Ma non è vero, dai, non è possibile, dai. Cioè, te lo giuro. Ma è praticamente impossibile, io non conosco un uomo che sia così, cioè forse fosse Ruggero, forse Di Malfi, gente estremisti cattolici, Mario, tu non sei nemmeno, non è che sei uno che va in chiesa a pregare. No, non sei... io sono un liberal progressista, assolutamente no. Ho capito, però... non è possibile che da 7 anni non trombi, quanti anni hai, scusami Riccardo? 25. Sì, tu da 18 anni non scopi, dai, su ragazzi, ma perché, sì, mi, devi perché mi devi raccontare puttanate? Giuseppe, dai, te lo giuro che... non scopo dal 2013, se vuoi ti dico anche il giorno, dovrebbe essere 9 aprile. Sì, ma questa roba qui viene da qualche altro motivo, non lo so, infatti non ci credo fondamentalmente, sto cercando di capire se è vero o non è vero, ma mi sembra francamente una bufala. Non è una bufala, perché non chiamerei per dire una stronzata del genere. Sì, ho capito, ma qual è, cioè, la ragione vera? Perché uno da 18, dai 18, di solito dai 18 ai 25, insomma, si dà da fare. A casa mia uno si dà da fare. Hai paura che non ti tiri l'uccello. A casa tua anche a 55 anni, come dimostri, diciamo. 55 anni si tromba, sì, abbastanza, bene, si tromba, certo. Ma è normale che sia così, te lo auguro anche a te, Davide, cioè, auguro anche a te a 55 anni di arrivare con una carica sessuale. Io, come piuttosto... sai, non parlo di questi argomenti. Se vuoi però possiamo parlare della riforma della legge elettorale. Perché non mi dici, guarda Davide, parliamo della riforma della legge elettorale, posso parlare. Faccio gli auguri e spero che a 55 anni tu abbia una carica sessuale forte. Tra 10 anni. Sì, esatto. Abbia ancora una carica sessuale notevole. Questo è il punto fondamentale. Riccardo non ce l'ha nemmeno a 25, questo è il punto. No, allora, Giuseppe, ti spiego le motivazioni. Mi ha fatto questa domanda, ora ti rispondo. Comunque, Davide, se vuoi possiamo fare anche approfondimenti politici. Allora, io dico questo. Per quanto riguarda il fatto di non scopare, per due motivi. Il primo è che, come ho detto prima, mi devo innamorare per scopare. Perché io non conosco una persona, non ne conosco uno che per scopare si deve innamorare. Conosco Ruggero, che però non parla manco di amore. Ad Inolfi forse, ma nemmeno lui, credo che avrà scopato a 18 anni, anche senza innamorarsi. Pochissime persone, forse neocatecumenali e altri estremisti religiosi. Non appartieni a questa lista. Se mi paragoni a quelli, ti porto via tutto. No, ho capito, allora perché? Ma perché non mi è mai capitata l'occasione anche di un flirt importante che mi abbia fatto dire porca puttana, voglio scopare. Sei vergine oppure a 18 anni hai scopato? No, che vergine, certo che ho scopato. A quando hai scopato? Dai 15 ai 18? Dai 16 ai 18? No, quando ho scopato ai 17. Cioè dai 17 ai 18? Ma che rilevanza ha quello che ha fatto questo signore? No, ma perché? No, la rilevanza è che esiste una sacca di persone, una minoritaria naturalmente, che non fanno attività sessuale. Ora, la cosa interessante, una piccola parte di ventenni eccetera, che non fanno attività sessuale. Secondo me, la masturbazione è una gran cosa. Sì, però... Però posso dirti, Riccardo, secondo me tu, mettiamo che sia vera questa storia qui, secondo me tu hai paura che non ti tiri l'uccello. Questa è la mia Con quelle di cui non mi sono esattamente con quelle di cui no, in generale, esatto. Hai paura che non reggere. Giuseppe, tira una meraviglia. Beh, allora amico mio, cioè o è una cazzata oppure devi andare a far curare. Cioè queste sono ma ti assicuro così, io la penso come Anna da Brescia, io la penso esattamente come lei. Sì, vabbè, ciao. Chiedo scusa un momento, con pubblicità. La zanzara. Cruciani, più fai lo stronzo, più mi fai sesso. Allora, intanto Salvini dice una cosa, che in realtà il centrodestra governa in 15 regioni su 20. È vero che viene interpretato il voto come una sconfitta anche di Salvini, un po' perché Zaia ha preso un sacco di voti, ma con la sua lista. Lui l'aveva detto, lui ferma il ragionamento. Aveva detto 7-0, un po' perché era stato lui a dire vinciamo 7-0, era stato lui a caricarla. Ti sto dicendo, viene interpretato giustamente secondo me come una mezza sconfitta di Salvini, però è anche vero dalla parte opposta, non voglio fare il democristiano, che il centrodestra governa in 15 regioni su 20, in 15 regioni su 20, no? Mi pare che... Ma che vuol dire però? Vuol dire che stai già preparando la linea del debbio di giovedì, ma fammi no, capire. Ma che c'entra la linea fammi del debbio? Fammi capire, ma lo che so, cosa stai preparando. Ma che c'entra? Io manco lo sento del debbio, ma sono cazzi suoi. Aborderò di dritto e rovescio, fammi capire cosa stai cucinando. Mortacci tua che hai iniziato la trasmissione insultando con l'internazionale sotto. Perché non Pasaran, non è passato il fascismo in Toscana, ma fascismo, e la Toscana è rimasta fascismo, rossa. Io. Ma è come no? Veronese, per esempio, il tuo amico Veronese ha detto: vedo in Toscana i germi di quello che riconosco, i germi di quello che fu, ecco, il fascismo. L'avete buttata, come al solito sull'antifascismo e queste puttanate. Ma non troverai un mio solo tweet. Questi sono i pensieri che tu riservi, no, e tieni nel privato, ma che io conosco, però. Che io conosco. Un mio solo tweet. Non troverai un tweet. Oliviero Toscani, chissà come la pensa, chiamiamolo, dai. Vediamo. Oliviero Toscani, che peraltro ha votato in Toscana perché è residente in Toscana. Ah, già, a Bulgari, è vero. Pronto? Oliviero, come stai? Sono Giuseppe. Bene, tu? Bene, non c'è male, c'è qui pure Parenzo che impazza. Ciao, caro Oliviero, ciao. Ciao, Parenzo. È contentissimo per quello che è successo in Toscana. No, cioè, mi pare un segnale inequivocabile. Cioè, un segnale inequivocabile. Logico, lui dice un segnale di civiltà. Inequivocabile, inequivocabile. Ma è logico, sono l'unico. Ma è la regione più giusta d'Italia, dai. No, voglio... Storicamente, culturalmente, esteticamente. Ho capito, però scusami, Oliviero, non è che erano i barbari quelli là. Cioè, non è che se vinceva vincevano i barbari. Quella là è una barbara, ti dico io. Sì, ho capito, ma non è che vincevano, arrivavano gli Unni e la Toscana si trasformava in una. Voleva tornare indietro. Ma ho capito, tornare indietro. Poi era accogliente la Toscana, no? Dico, un sistema cooperativo, un sistema sociale. No, insomma, logico, questo funziona, dai, confronto al resto funziona. Ma hanno capito, si comincia a capire. Cioè, tu dici, Salvini è sbagliato. D'accordo, tu dici che dunque la Lega non sfonda in Toscana perché la Toscana è un posto civile, cioè è un posto. Ma è logico, dove c'è civiltà, la Lega non va. Cioè, dove c'è barbarie. Però Lega il Veneto funziona. Non è che sia incivile, però adesso diciamo. Io sono veneto, voto a Roma. Zaia deve ringraziare me, c'è stato eletto la prima volta presidente di regione quando ha difeso i veneti, quando io ho detto che erano ubriaconi. Allora lì lui me l'ha detto lui: guarda, ti ringrazio che mi hai fatto governatore veneto. Sì, però voglio capire una cosa: non è che in Veneto c'è la barbarie, quello c'ha oltre il 70%, non è che sono tutti ubriachi, sono ubriachi quelli che votano Zaia, non mi pare, no? Cioè, no. Ma forse un po' sì. Cioè, nel senso che quelli che votano Zaia, secondo te, sono dopo 3-4 cicchetti votano sì, Zaia. Ma sì, no, dai, beh, aiuta. Questo no. Siccome tu hai detto che dove c'è la Lega c'è barbarie, Zaia non mi pare che in Veneto domini, no? Cioè, ci siano i barbari. Un po' c'è, ma però comunque diventeranno civili anche loro, dai. Prima o poi dici cambierà anche lì. Logico. Senti, ti voglio fare. Tu che sei contento, mi sembra. La tua Toscana dove hai votato, mi sembra no pasaran. No, non passerà mai. Sì, però qualcuno mi parla addirittura di vittoria dell'antifascismo, esagerato. No, ma questi non sono esagerati, dai. Quelli che parlano di fascismo rompono le palle, perché gli devi rispondere, no? No, ho capito. Ma è però, chiaro non è che non si presenterà più col fez, gli stivali, la camicia nera. Il fascismo prende delle forme diverse con l'evoluzione del tempo e della società, insomma, dai. Per cui in qualche modo è stato bloccato questo neofascismo, diciamo, in Toscana. La Toscana. Senti, ma è la regione più civile d'Italia. Ma perché non vieni più in trasmissioni come da Del Debbio, per esempio? Per esempio, andresti mai da Giordano? Del Debbio mi sta proprio su coglioni. Ma perché? No, ma non c'è bisogno di andare né da Del Debbio né da Giordano. Giordano da è ottimo. Come si chiama? Giordano è un genio. Mamma mia, ma una vergogna per il giornalismo. Questi qua sono come l'avanspettacolo. Vi ricordate lo Smeraldo? Però è bellissimo. Sì, l'avanspettacolo della politica. Ma certo, ma è stupendo. Ma che stupendo. La politica è anche una cosa seria. Non si può mettere questi prezzolati lì. Ridicoli. Ma questi qua non sono giornalisti. Questi non sono giornalisti. È gente lì per fare audience per gli stupidi che trattano la politica in questo modo. Ma ho capito, però fanno ascolto, cioè ottengono dei buoni risultati. Ma che se ne frega, ma non mi interessa la quantità. Ma chi se ne frega della quantità? Signor Giordano, vai ospite, vai una volta ospite e diglielo, ma no? Neanche, ma no, ma cosa devo dirgli cosa? Quando vai da quella gente lì, più dici le cose giuste, più passi da stupido. Ma capito? Però non sono prezzolati, perché devi essere stupido. Prezzolati, sì, chiaramente in un modo molto particolare. Cioè, prezzolati tu dici... dalla audience. Ma anche da Salvini, anche tu dici da Salvini e della Meloni, dici sono... No, dall'audience televisivo. Siccome che dicono le cazzate, fanno ridere la gente. Siccome Crozza non fa più ridere nessuno. Adesso su questi qua è veri comici. Però Giordano meglio di Crozza non è male, Giordano. Cosa? Meglio di Crozza. Sì, come Crozza, sì, è il nuovo comico. Ma è stupendo. Cioè, secondo me è un genio. Perché dici che non è un genio? Secondo me è un genio assoluto. No, un poveretto. Beh, ma a cena lo inviteresti, una sera a cena da te. Ma questo non è Massimo, figurati. Giordano proprio non ho una sera a cena della tua tenuta, dai. Ma è uno che non approfondisce niente, sa di essere malafede. Ma a cena, una sera a cena a parlare di politica, a ragionare senza i microfoni davanti, nella tua tenuta, tu ma e Mario Giordano. Non puoi ragionare con Giordano. Ma come non puoi ragionare? Giordano non lavora, non ragiona, poveretto. Ma il signor Del Debbio, sì, il signor Del Debbio che è un intellettuale. È un professore, cioè. Peraltro, professor Del Debbio, lo chiamano tutti professori. Ci sono tanti professori del cazzo, ma figurati. Ma perché parlo del Debbio? E invece il signor Zangrillo, che ne pensi? Del Debbio, madonna, doveva fare seminarista, deve continuare a fare. Ma una cena con Del Debbio a casa tua, tu e Del Debbio a casa a discutere di politica, di liberali. Vieni anche tu. Ma io se mi inviti vengo volentieri. Io vado a cena. Non verresti. Certo, no, preferisco farmi una serata. Ti ricordi con quei cantanti che improvvisavano con loro? Senti, ma scusami, ma Zangrillo invece il professor Zangrillo. Professor Zangrillo, non è meraviglioso? Io lo trovo geniale, il professor Zangrillo, o no? Ma non è credibile quando parla. Ma perché non è credibile? Cioè, non mi dà fiducia. Cioè, tu ti faresti curare da Zangrillo? Ti faresti curare dal Zangrillo? No, perché c'è di meglio. No, beh, addirittura c'è di meglio adesso. Beh, quello è un professore primario, però, primario San Raffaele. Va bene, non voglio criticare Zangrillo. Il medico... Non voglio criticare. Hai detto che c'è di meglio, non voglio criticare. No, non mi dà quando parla, il modo come parla. Come non c'è, come. Il Covid non c'è. Lo abbiamo sconfitto. Non mi dà, l'abbiamo sconfitto, è finito. Non mi dà affidamento. È il medico di Berlusconi. È il medico di Berlusconi, dai. E chi se ne frega? Ah, c'è anche il parrucchiere di Berlusconi. Andrei mai dal parrucchiere di Berlusconi, scusa. Scusami, ma comunque è tutta la stessa cosa, perché Zangrillo è il medico di Briatore, per esempio, il signor Briatore. Tu andresti mai al billionaire, per esempio? Ci andresti mai al billionaire? Ma no, non c'è bisogno. Billionaire. No, non mi interessa, perché tutto loro sono un biliardario. Quindi non mi fanno neanche entrare. Qualche soldino ce l'hai, non è che non ce l'hai qualche soldino. Non mi fanno neanche entrare, figurati. C'è grande figa là, c'è gran figa là, questo non c'è dubbio. Sì, ma quel genere di figa lì non è interessante. Beh, tu dici che ti costa, costa troppo quella figa. No, è figa da palestra. Da palestra, tu dici solamente per fare certe cose, non è proprio figa intavolare una discussione, ecco, con cui... Ma non è che intavolare una discussione, è il piacere di stare con qualcuno che, non dico sia intelligente, ma forse sì. Beh, non è che vanno tutti i coglioni adesso al billionaire, cioè non è che... Cioè, insomma, no. Sono inversamente proporzionale alla lunghezza dei loro tacchi. E lì è pieno di taccate. Ma perché? È gente che si vuole divertire. Tu dici il cervello è inversamente proporzionale alla lunghezza dei tacchi. Sì, sempre. Ricordo. Tu guardi i tacchi, più alti sono, più basso è la quantità del cervello. Ah, tu dici nelle donne è quasi sempre così. Più sono alti i tacchi. Perfetto, è una misura perfetta. Cioè tu dici più alti tacchi... Più ha tatuaggi... E meno a cervello. Ah, questo qua però potrebbe essere un'interpretazione. Cioè, nell'uomo uno più è tatuato, più è rincoglionito. Sicuro vuol dire che è rincoglionito, che non siccome non riesce a riguardo Chef Rubio, ad esempio. Nella folla, sì. Allora bisogna tatuarsi. Ah, cazzo, questo qua sono io. Mm. Quando si guarda allo specchio si riconosce. E la donna invece? E la donna? Uguale. Cioè, per esempio, la donna rifatta, più rifatta è, più coglione è, dici, per esempio, no? Abbastanza, cioè. Sì, sono una che non si vuol bene, che non si accetta così com'è. Ho capito, dunque più tacchi, più tette rifatte. Ma adesso io non parlo più con questa gente qua, quando sono fatte così non perdo più tempo. Addirittura? Ho deciso, sì, Meno male che non ho tatuaggi, meno male che non ho tatuaggi, amico mio. Io non ho tatuaggi, no, manco uno. Ma il telefono non c'è problema. No, ma ti dico, il tatuaggio non, c'è, non me lo sono mai fatto un tatuaggio. Se qualcosa di intelligente non l'hai fatto neanche tu, perfetto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, bello, ciao. Ciao, ciao. La Zanzara. Ciao Cruciani, sentivo la storia della frattura del pene, ci sono anche delle abitudini dell'est Europa di gente che fa il cracking, che si spacca il pene per far cedere immediatamente le erezioni. Ho appena scoperto con mio enorme stupore che a quanto pare parecchie donne fanno i pompini senza ciucciare le palle. Ora io non dico bocchini ai livelli di Simona che sentivamo l'altro giorno, ma le basi. Volevo fare una domanda alle regine dei pompini. Allora, il pompino, quello proprio massimo, quello reale, proprio imperiale, va fatto tenendo il cazzo in mano o usando solo la bocca, non tenendo il cazzo in mano? Vorrei una risposta, grazie. Vuole la risposta questa? Non ho capito da chi vuole la risposta. Ah, io. No, tu no, perché non pratichi. No, tu non ma pratichi. Non saprei neanche cosa dire. Ma no, ma consigliala, consiglia a rivolgersi a qualcuno, un esperto, una delle due, Simona. Una delle due. Ma che c'è tra un medico? Ma perché? Per aver medico? Fatto questa domanda, ma vada perché? Da un bravo psicanalista. Ma sono le domande che le persone si fanno quotidianamente. Sì, ma nell'intimo delle loro no, mura domestiche. No, anche pubblicamente in questo caso. Questo posto qui è fatto così. So. Ci sono delle confessioni pubbliche, le persone rivelano le proprie intimità, la propria carne, tirano fuori il succo. Lo so, non dirlo, non restano in superficie da questo punto di vista, tirano fuori se stessi. Hai sentito prima il Toscani, no? Che cosa ha detto a proposito delle persone che si fanno i tatuaggi? Io non sono assolutamente d'accordo su queste generalizzazioni toscaniane, cioè che sono inversamente proporzionali al cervello. Più tatuaggi, meno cervello, più tacchi e più tette rifatte, meno cervello. Vi posso assicurare che nel caso delle donne non è assolutamente così. Cioè, ci sono delle donne che non prendono, non hanno tacchi, non si sono mai rifatte, che sono delle rincoglionite, delle deficienti totali. E ci sono invece delle donne con i tacchi, che portano degli stupendi tacchi, che sono intelligentissime, persone che stimo, che hanno due palle così, almeno secondo me. Lui invece la pensa in questo modo, che te devo dire. Marco da Belluno, avanti tutta. Marco, dimmi. Beppo! Ciao Beppo, bene? Beppo, mi chiamo... Sì, sono breve, non ho voglia di farti perdere tempo, che lo so che ti incazzo in 30 secondi. No, ma io mi chiamo quindi, Giuseppe, però non veniamo Beppo. Subito lungo, veniamo subito lungo. Vediamo, Beppo. Comunque, vai, forza. Beppo. Perché hai votato tu? Ma secondo te, Cruciani, perché uno votato, chiama Marco, il Corriere te? Della Sera e dice Bortoli, dice no, guardi, mi chiamo veramente ex direttore Ferruccio De Bortoli. Ragionier Parenzo, sia cortese, sì. Mi faccia andare avanti. Perché ha votato lei? Non sono neanche andato. È uno dei pochi che non ha votato Zai, allora. Benissimo, sì. Marco, andiamo. Fai parte della resistenza anti-Zaia. Sai com'è la resistenza? No, sai cos'è? Non avevo tempo da perdere con te, ma non con... Giusto, assolutamente. Io penso che in Veneto fra poco bisognerà organizzare le brigate no, di resistenza anti-Zaia. Ma figuriamo. Beh, insomma, cominciano a essere begli anni, cominciano comunque a essere... Scusami Beppo, ragionier Parenzo, buonasera anche a lei. È due, vai Marco. È due. La figa. Dai, allora, la figa. Stavamo parlando che il pelo, io sono pro pelo. Sì, ho capito, adesso così d'amblè, così all'improvviso. Così da nulla. Cosa? Ubriaco lo dice ai suoi parenti più stretti. Giusto, ha ragione, era Gottardo. No, quello era Gottardo. Ah, Gottardo, anche quello va Gottardo, mio amico. Per precisione. Ciao, Polovan. No, Marco, non ho capito, tu vuoi cambiare così d'amblè, di botto, vuoi cambiare argomento e dici in maniera molto esplicita. Ci perché vuole. Non si parla mai di figa qua in questo programma. No, veramente devo, sì, devo mai, arrivare mai, io a chiedere di parlare di figa. No, se ne parla quasi sempre, diciamo. Sì. Però in questo caso tu stai portando. Non chiamavo mica te, chiamavo un'altra radio. Questo è giusto per fare un ragionamento, diciamo, politico. Diciamo, per fare politico, un ragionamento, sì. Cioè la chiamavi Radio Popolare, Radio Radicale. Oppure... Adesso voglio sapere la tua opinione, Beppo. Ma è un tuo amico? Ma è un tuo amico? Guarda, no. Allora posso dirti una cosa, ti ho già detto, ti ho già detto in maniera molto esplicita, Marco, sì, io amo, amo la, la figa col pelo, questo col pelo. È accertato. Appunto. Detto questo, adesso, detto questo, ne parlammo nei giorni scorsi anche col Gottardo, sì, ne parlammo in maniera approfondita, sì, diciamo che la figa, prima avevo una opinione molto negativa della figa depilata, totalmente depilata. Ci anch'io, sto... No, ho capito, no, prima, detto prima, avevo un'opinione totalmente negativa. Mamma mia, ecco, posso ecco dirti, la maraghetto che dice mamma mia. Posso dirti, adesso Marco, posso dirti che adesso, dimmi. No, no, ma dico da un po' di anni, da un po' di anni ho, non dico un'inversione a U, però riconosco, ecco, riconosco, amo sempre la figa col pelo, quella sì, pelo denso, pelo anche quello selvatico, quello che mi ricorda molto selvatico, molto, più, con le foglie di faggio anche attaccate. Addirittura, tu Marco sei un amante, sei un amante del riccio. Gottardo, stai buono, fammi parlare con Giuseppe. Allora, detto questo, capisco che per esempio si riesce a distinguere qualche volta la forma e certe cose, certe caratteristiche della figa, si riescono a riconoscere con la figa depilata. Con la figa, diciamo, pelosa, chiaro, c'è un problema, cioè le figa appaiono certamente diverse perché ogni pelo è diverso, su questo non c'è dubbio. Però d'altro canto, d'altro canto, la figa depilata ti fa, come dire, ragazzi, il clitoride lungo, grosso, eccetera, corto e sporgente, no, si vede meglio con la figa depilata, quello c'è poco da fare. Vuoi mettere a svegliarti la mattina che non sai se è filo interdentale o qualcos'altro? Sì. Mamma mia, posso dire solo mamma mia. Provare a sputare e non riuscirci e dover leccarsi le unghie delle dita dei baffi. Giuseppe. Sì, no, perché io rimango sempre affezionato a una parrocchia. Però, caro Marco, ti abbraccio fortissimo, dimmi, mi raccomando. Che restiamo sempre della, restiamo sempre fedeli alla nostra chiesa originaria, sì, la chiesa del pelo divino, la chiesa del pelo divino. Non chissà, volevo sentirmi dire altro. Secondo me, signor Giurice, ho altre domande. Ciao Marco, ciao. Straordinario passare per esempio a Sky TG24 e vedere da una parte Zingaretti e dall'altra Siorgiani. Io sono sicuro che sia Zingaretti e Siorgiani sono amanti della stessa mia parrocchia. Attenzione, c'è Salvini che parla. Fermala. Sentiamo Sky TG24. Ah, lo vuoi mandare? No. Che formano questo governo. Senti, stanno Salvini facendo adesso di tutto per governare. Sì. Io credo che se questa alleanza si fosse presentata ovunque, oggi il risultato sarebbe stato ancora migliore. Beh, nelle Marche sicuramente, che... nelle Marche sicuramente ci sarebbe stato la vittoria. Attenzione, qua. Assegnazione 2, Salvini. Sì. In diretta ora, la 7. Me ne sbatti i coglioni. Luca ci chiama dalla Francia. Luca ci chiama dalla Francia. Ecco, guarda, tocca a me. Dimmi Luca. Pronto, ciao Giuseppe, sì, sono Luca dalla Francia, sono un urologo, volevo parlare delle fratture del pene. Ottimo argomento. Che cosa ci porta l'attualità qui? È molto interessante questa cosa. Ho praticato 5 anni la chirurgia a Parigi in un grande ospedale del 20° arrondissement. Frattura del pene, in prima serata. Di guardie, ne ho viste di cotte di crude, eh. Sì, io non ho capito se Freccero già. Aspetta un attimo, Luca, adesso me ne parli subito. Ma Freccero, non è possibile che non ti sia venuto in mente una cosa sulla frattura del pene, prendendo spunto dalla frattura della politica? Naturalmente, no? Ci stavamo ragionando proprio in queste ore, naturalmente, con il professor Savona. Di che sostituire Savona, naturalmente, il grande professore presidente della Consob, dai, antirenziano, quello che voleva distruggere l'Europa, la distruzione del pene, bellissimo, ci sta, c'è un legame diretto. Allora, qual è il format? Stavamo appunto ragionando su come raccontare un tema di grandissima attualità nei reparti di urologia, naturalmente. Sì, sì. Il pubblico da casa può scegliere, è importante dare sempre la parola al pubblico, naturalmente. Certo, sì. La gente da casa può decidere. Fratturiamo o non fratturiamo? Diciamo. Rompiamo o non rompiamo? Oppure che pene mettiamo, naturalmente? Un pene di che colore? Verde per ricordare, naturalmente, la Lega? Oppure rosso per ricordare i comunisti, il colore, naturalmente? Il colore. È il futuro, l'intelligenza artificiale. La tecnologia lo impone, naturalmente. Il pene, ad esempio, luccicante, anche questo, naturalmente, di notte, comodissimo per i camionisti, naturalmente, questo si può fare. E tutto questo in un grande racconto popolare che su cui stiamo lavorando, su Rai 3. Rai 3, TG3 Salute, TG3 Salute, bene, un grazie. Approfondimento, un focus, dai, un focus. Allora Luca, non ho capito bene una cosa. Tu sei urologo, ci parli dalla Francia e sì, ti occupi spesso di cracking del pene, cioè di rottura del pene. Non è che mi capita come urgenza e quindi arrivano questi pazienti qua tutti sempre un po' intimiditi, un po', come sì, dire, ma provocate un po' da atti sessuali, immagino. Ma certo. Soprattutto è la posizione dello smorzacandela che fa che quando il pene non è completamente eretto e c'è quindi una certa flessibilità, basta cambiare un pochino l'asse e boom, tutto il peso si schianta sul pene che si piega e crack, e si spacca. Ragazzi, tremendo. Dunque, tu dici i casi più evidenti sono quelli in cui il pene non è particolarmente duro, la donna insiste, diciamo, sul pene da sopra e provoca un crack. Chiedo scusa se mi interrompo questa conversazione. Aspetta, se interrompo il pene, duro, non si rompe. La Meloni dice ora ridare la parola agli italiani. Chiedo scusa se ho interrotto con una notizia dell'ultimo minuto. Essendo passato il referendum, la linea della Lega e della Meloni in questo momento è dire adesso questo Parlamento non è più legittimato, bisogna ridare la parola. Chiedo scusa se ho interrotto la conversazione. Però, no, ma è interessante invece dalla rottura della Costituzione alla rottura del pene. Scusami Luca, ma esiste anche qualcuno che si auto, non credo che ci siano degli atti di masochismo. Sì, esiste. Come esiste? Non è un vero e proprio masochismo, sono delle abitudini un po' strane dell'est Europa, dove fanno delle cose strane, tipo si iniettano della vasellina per aumentare lo spessore, mettono delle biglie sotto pelle e si scrocchiano il pene, cioè si chiama in inglese, si chiamano tipo knuckling, come scrocchiarsi le dita, e si scrocchiano il pene in erezione, e io sinceramente non so perché lo fanno. Ma ti arrivano dei casi in ospedale nel 20° arrondissement? Ti arrivano dei casi del genere? Nel 20° arrondissement no, arrivano altre cose, tipo altri tipi di rotture di cazzo, soprattutto a Parigi la gente non si scrocchia il pene, ma siccome chiavano dalla mattina alla sera arrivano parecchie fratture della verga. Ragazzi, ma le fratture della verga, così come tu ce le stai descrivendo, diciamo frutto sostanzialmente di un modo di fare sesso, cioè con la donna sopra e un pene non particolarmente eretto che non regge, diciamo, è proprio così. In che modo sì? Ma in quanto Parenzo tempo? È lì che geme. Ma è la realtà, mi fa oltre che orrore, mi fa orrore, anche male. È la realtà, ma fa anche male. È così. Te l'hanno tagliato un pezzo, orrore di che? Bisogna saperlo, perché se tu penetri con il pene flaccido rischi la frattura. Quindi il pericolo è il pene flaccido, non tanto la posizione, ma il fatto anche di la posizione, anche la posizione. Quando si è. Però può succedere anche col pene molto duro, non è che può succedere col pene molto duro se c'è una violenza particolare o una posizione particolare della donna, immagino. Immagino, poi dipende. Non è che te lo raccontano a te se il pene era flaccido o il pene era duro una volta che si presentano i pazienti. Lo raccontano perché lo spiegano, perché lo sanno, è così, insomma. Così. Cioè il cracking del pene avviene soprattutto a pene morbido, diciamo a pene morbido. Sì, esatto. A pene non particolarmente eretto, però con un movimento della donna sopra ed è notevole, esatto. Cioè con un movimento in cui l'uomo non controlla praticamente, tunto da sopra così. Esatto. Movimento e di solito i pazienti arrivano sempre da soli, un po' timidi, un po' vergognosi, con una ciolla come una melanzana, perché è enorme, tutta viola e gonfia, e bisogna sguantare il pene, capito? Sì. Sguantare il pene completamente, andare a cercare il buco e ripararlo. Ma in quanto guariscono i pazienti di solito? Da una cosa del genere? Rapidamente, cioè? In una decina di giorni. Addirittura? Sì, in 10 giorni sono operativi e possono scopare di nuovo. Quando tu ripari il buco lo fai con un filo molto duro e che resta lì per sempre, quindi una volta che la sutura è stagna. Beh, ho capito, ma 10 giorni tu mi stai dicendo che la frattura del pene, dell'uretra. Non è un osso il pene, quindi tu quando hai riparato la guaina che si è lacerata, a quel punto lì basta, funziona praticamente come prima. Poi ovviamente. Ma non saranno 10 giorni, sarà un mese, diciamo, in tutto, tra una cosa e l'altra, no? No, dipende, perché già il giorno dopo hanno delle erezioni spontanee, e quindi quelle non si possono evitare, e quelle non pongono nessun problema. Però non è che il giorno dopo possono scopare, naturalmente. È meglio di no, perché bisogna dare comunque il tempo ai tessuti di ripararsi. Mamma mia, ragazzi, allucinanti. Fermi tutti, è la realtà, però, la realtà. È così. Ciao. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. Vi presenta La Zanzara. Parenzo li adora i negri. negri con 20 centimetri di cazzo. Dunque, è la sua passione? Cruciani, se usi i plug anali vuol dire che un po' frocio sei. Mo puoi trovare tutte le scuse che ti pare, aggiunta, non aggiunta, prova, non prova, esperimento, non esperimento. Se usi i plug anali, secondo me il pensiero te ce va, sei un po' frocio, senza dubbio. Cruciani, senti, mi sto guardando il naso di questa mia amica e mi sto rendendo conto che la teoria è giusta, perché a lei è il naso che le pende a sinistra. E devo dire che sì, è quel tipo di ragazza. Se arrivi a 30 anni e sei ancora vergine, sei un cesso. Non c'è un cazzo da fare, sei un cesso. Cruciani, fatti mandare una foto e poi ne riparliamo. Sì, le donne che vanno a cavallo saranno pure maiale, ma vogliamo mica parlare delle donne, delle ragazze che vanno in moto? Perché voi capite bene che la vibrazione del motore a cavallo della donna, cioè nel diciamo, pube della donna, quella vibrazione lì, ragazzi miei, provoca qualcosina. Allora ragazzi, all'inizio della trasmissione abbiamo mandato l'audio di un cacciatore che ci annunciava il ritorno della caccia, perché ci sono state le elezioni, va benissimo, sì, però sì, è tornata la caccia, si è aperta ufficialmente la stagione della caccia, che purtroppo è un rito, perché purtroppo sei contro la caccia, perché è una cosa barbara. Io abbiamo scoperto un gottardo contro la caccia. Aboliresti la caccia? Ma io abolirei la caccia negli spazi privati, perché i contadini si vedono invadere i campi da questi stronzi. Cazzo stai dicendo? Quali spazi privati? Senza nessun tipo di permesso solo dove entrano nei campi. Ma cosa c'entra? Io se ho un campo, se ho una vigna, entra il cacciatore quando cazzo gli pare. Non entriamo nel dettaglio di queste cose. Hai detto che è una cosa barbara. Dunque tu aboliresti la caccia? La violazione della ma che ti metti a fare il leguleio? Ma che c'è il codice penale dietro? O sei a favore o sei contro? Poi il regolamento è un altro discorso. Come si regola la caccia è un altro discorso. Comunque abbiamo ricevuto un messaggio che è questo. Cruciani, sono Gianluca il Piccio da Livorno. Il Piccio. 20 settembre, il Piccio. Apertura generale della caccia. Sì. Ho appena ricontrollato il mio semiautomatico Beretta, che tutto funzioni come si deve. Senti. Sì. Eccolo qua. Stupendo. Questo era il mio fucile semiautomatico pronto all'uso. Dalla prossima settimana si rincomincia. Penne al colombaccio, fagiano alla cacciatora, pappardelle alla lepre. Cosa vuoi di più? Cruciani, quando vuoi a Livorno sei benvenuto. Grazie amico mio, grazie. Hai elencato una serie di cose che mi piacciono da morire. Abbiamo con noi naturalmente il capo di Animalisti 100%, che si chiama Paolo Mocavero, che saluto. Eccoci qua. Caro Paolo. Voglio capire da Mocavero una cosa. Padovani sono i numeri uno, Padovani, parenti. Quello sempre c'è. Assolutamente. Però lasciamo dottori, gran dottori. È bravo. Lasciamo perdere. No, ma Cruciani è laziale, quindi va bene anche Cruciani. Ma io non c'entro nulla. Io sono a favore, per esempio, della caccia, come sai. Sono a favore dei cacciatori. Ma tu reciti sempre questa parte e continua a recitarla. No, ma quale parte sto recitando? Io sto dicendo semplicemente una cosa: si sta inaugurando in questi giorni una stagione che spero sia meravigliosa, che porti grandi risultati. Lo spero anch'io. Già ieri è partita benissimo, che un coglione è stato scambiato per una lepre ed è stato fulminato agli occhi, quindi meglio di così, cioè più il buongiorno si vende al mattino. Cioè tu stai dicendo, come al solito, magari il mattino non lo vedrà più per un periodo, anzi forse per sempre. Comunque, come al solito stai dicendo che ti auguri numero più alto di morti, ogni anno ti auguri che ci siano più cacciatori che muoiono durante la stagione, sostanzialmente. Chi è David che dice no? Come si fa a augurarsi la morte di qualcuno? Ascolta una cosa, voi avete dei figli che sono meravigliosi. Allora? Benissimo, almeno arrivo dunque. Ho visto che voi pubblicate spesso, volentieri, con un grande orgoglio queste gioie della vostra famiglia, giusto? Allora? Mi spiegate come faccio a non augurare le peggio cose ad uno che invece di essere orgoglioso della vita, come fate voi, che la toglie. spiegatemi. Vabbè, ma non la toglie. Ammazza un fagiano, non è che la toglie. Ammazza un fagiano. Esatto. Il fagiano non è come mio figlio. Una beccaccia non è mio figlio, amico mio. Non è come mio figlio. Questo è il punto. Dai. Comunque, andiamo alla domanda. Scusa, però ho capito. Però tu non rispondi. La Bresaola non è un figlio. La Bresaola è ottima. E dopo non sa parlare. No. Per te non è figlio tuo, per me è un fratello. No, ma lo so, ho capito. Ma la Bresaola non è un fratello. Ma io infatti rispetto quello che dici tu. Tu stai dicendo la Bresaola, limone e olio. Sì, però la Bresaola, limone, olio e rughetta non è un figlio, eh? Bresaola, limone, olio e rughetta. Ne riparleremo, ci sono tantissimi. Però scusami. Buttando sulla carne vegetale. Va bene, d'accordo, però io, Moncavero, voglio sapere. Ho detto. Va bene, la carne vegetale ne riparleremo. Tu, però, hai detto una cosa importante. Tu stai dicendo sostanzialmente che all'inizio di questa stagione di caccia ti auguri che ne muoiano il più possibile, così? Ma non è solo questa, tutte le stagioni di caccia. Cioè tu ti auguri, dillo apertamente, mi auguro che ne muoiano tanti, dillo, se hai coraggio. Ma come a me mi viene il suo coraggio? Dillo, mi auguro che ne muoiano il più possibile. Mi lasci parlare. Dimmi. Io non solo mi auguro che crepino tantissimi cacciatori, sì, ok? Sì. Io mi auguro che sorpassino tutti i record quest'anno. Me lo auguro ogni anno. Un cacciatore buono è solo quello 3 metri sottoterra. È di una gravità assoluta, dai. È una gravità assoluta. Ma dai, non mi una cosa. Ma infatti sei coerente solo che sei coerente fino in fondo. Però una cosa è essere contro la caccia, Scusami, non devi dire che non ho coraggio, perché il coraggio ne ho da vendere. Allora, e lo dico anche in faccia. Abbiamo qui, qui Sergio Berlato, fermi tutti, Sergio Berlato, un grande sostenitore della caccia, europarlamentare dei Fratelli d'Italia, signor Berlato. Che ha perso un processo di recente in Cassazione. Si vincono e si perdono i processi. Berlato, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani, allora, ha sentito una cosa gravissima che ha detto Mocavero. Ogni stagione che si apre spero ne muoiano il più possibile, e l'unico cacciatore buono è quello sotto 3 metri di terra. Questo è brutto. Del resto, guardate, ognuno mostra quello che ha, quindi Mocavero dice quello che pensa e mostra qual è la sua qualità interiore, no? Quindi quando voi dite che Mocavero è il capo degli animalisti, guardate che quando tutti gli animalisti che fanno riferimento a Mocavero si fanno un raduno nazionale, si trovano nella mia taverna. Cioè, ci stanno tutti nella mia taverna, tanto per capire con chi stiamo parlando. Cioè, tu dici, rappresenta 4 gatti, dici tu. Evidentemente non è grande. 4 gatti, se fosse a Vicenza addirittura sarebbe ancora un problema ulteriore, noi, vista la nostra predilezione. Lei ha mai mangiato un gatto, Berlato? No, non l'ho mai mangiato, però non credo che... Problemi, insomma. No, non mi farei... è una questione semplicemente ideologica. Per quello che riguarda, però, mangiare cani e gatti... come ucciderli è vietato dalla legge, e noi siamo per rispetto della legge. Quello mi pare evidente. Io una volta ho mangiato un cane, ma era in Corea. Io sono sempre dell'avviso che va rispettata la legge, va rispettata. Scusi, anche lei è il punto di riferimento dei cacciatori, oppure va anche a cacciare ogni tanto? No, io caccio da quando... Dunque, per lei, per Mocavero, quindi, lei dovrebbe essere morto. Mocavero, lui dice non quello che pensa, ma quello che vuole recitare. Non lo pensa, secondo me. Ma lui vuole semplicemente ricavarsi uno spazio. Per del resto, guarda, io ammiro sempre le persone per quello che hanno fatto nella vita. E allora, se dobbiamo chiedere a Mocavero, ma tu nella vita cosa hai fatto? Cioè, qual è il risultato della tua vita, per dire? E avrai modo di constatare che questi qua, molti degli animalisti, in realtà sono nullatenenti, non hanno fatto mai un cazzo in vita loro, per dire, e vorrebbero condizionare una parte dell'opinione pubblica utilizzando il pietismo per il povero animaletto. Poi magari vestono cinture in pelle, scarpe in pelle, vestono... Scusami, Mocavero, sostanzialmente Berlato ha detto che non fai un cazzo dalla mattina alla sera. Allora chiariamo una cosa, adesso mi dai lo stesso spazio di sto fenomeno, ok? Se no ti butto il telefono e non ho capito. Ho detto che adesso mi dai lo stesso spazio. E questo? Non è la parte in dicio. Ma questo? Mocavero, siamo qui apposta, non è che me lo dici prima. Io ti sto chiedendo, mi dai lo stesso spazio? Quanto l'ho dato? Ma certo, vai, ma tranquillo, non è che un siamo un attimo che no, se non me lo dai io ti dico più giù ancora, telefono, ma hai fatto quello ancora, non ti rispondo più, okay? Allora, il signore che dice cosa ho fatto nella vita, Bellato. Lui parla che sono 30 anni che si fa mantenere dallo Stato e se è stato eletto con voti cacciatori non farebbe neanche lo straccio del benzinaio nella vita, sto fenomeno qua. Vabbè, proprio capito, lui fa dice politica, a me proprio lui dice a me che non ho fatto il cazzo, io qualcosa ho fatto, ma non ho mai rubato da nessuna parte. Ma neanche lui, però, scusa. Cosa hai fatto finora nella tua vita? Non sto dicendo che sta rubando, per l'amor di Dio. Sto dicendo semplicemente se c'è uno che non ha mai fatto un cazzo nella vita, che è stato mantenuto dai voti dei cacciatori, è proprio sto fenomeno. Beh, mantenuto dai voti, rispetto, nei miei confronti, non è la mafia, nei miei confronti deve essere sempre in silenzio, perché con me ha sempre perso, è l'ultima inculata, la presa dell'uno. Cosa, ma i processi sono una cosa. Scusa, ma cavolo, stai dicendo delle falsità, perché io ti ho fatto condannare due volte, altro che sempre ma perso. Ma se mediano, come, come viene per quelli che sono graziati da un indulto, oppure sei stato condannato più volte. Aspetta, fermo un attimo. Bellato, fermo un attimo. Allora, aspetta, fermo un attimo. Mocavero, hai detto. Ma stai parlando? Ma stai parlando? Allora, mi chiudi il microfono. Ma ho capito, ma uno discute, dai. Uno discute, dai. No, discuto un cazzo. Quando parlava lui, non potevo intervenire. Ma chi te l'ha detto? Se volevi intervenivi. Ma se volevi intervenivi. Oh, Mocavero, ma se volevi intervenivi tranquillamente. Sei stato zitto per tua scelta. Non si sentiva niente, non dire puttana. Ma ti pare che tengo giù il microfono? Ma che dici? Che questo signore deve salvare la faccia con i suoi coglioni che lo seguono, quei quattro ubriaconi, e vedi che ci mette dentro. Non ti tolgono nulla perché non hai nulla. Merda, tu sei uno che durante tutta la vita è riuscito a produrre. Aspetta, giù Bellato un attimo, non ho capito perché gli dici anche la moglie, il genero, pezzo di coglione, non ho capito che c'entra di merda, che ruba da vent'anni con i soldi dei partiti, vaffanculo. Ma non ho capito, no. Sempre com'è, coglione. Ma perché ruba? Che cosa ruba? Cosa ruba? L'ultima causa l'hai persa. Ma che c'entra? Uno vince, si vince, si perde. Ma perché? Ma se gli dici testa di cazzo, cacciatore di merda? Non ho fatto un cazzo nella vita e mi dici a me che non ho fatto un cazzo. Bellato, rispondi. Ma tu li ha perse. Non ne ha vinte neanche una. Mo cavero, è una vita che dici stupidaggini e tu le hai perse le cause. Solamente che sei stato graziato dal fatto che il tuo reato è stato derubricato. Ma tu sei stato condannato. Hanno detto che siccome è stata modificata la norma, vabbè, tu sei stato condannato. Ma a me non mi interessa le vostre cause. Non hanno applicato la condanna. Fermo un attimo, perché a me giù Bellato, un attimo giù Bellato. A me delle vostre cause non mi interessa. Ma perché? Ma perché gli hai dato? Perché gli dai lo insulti in questo modo? Mocavero, non ho capito. Un cacciatore, come tutti i cacciatori, è un uomo di merda. Chiaro? Risposta di Bellato. Guarda, radice quadrata di zero. Questo è quello che Mocafaro ha fatto in tutta la sua vita. Radice quadrata di zero. Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Sulle ragazze che vanno a cavallo, c'ha ragione il buon Gottardo, io ho i cavalli in un maneggio, ma che cavalcate, e ci siamo capiti. I love my radio. Ciao Cruciani, ascolta, ha ragione Gottardo, io sono qui in macchina con una ragazza che faceva equitazione e ti posso assicurare che è una maiala incredibile. Il secondo dito del piede più lungo dell'alluce è nelle proporzioni greche, cioè la perfezione, quindi dire che è una deformità o che rende il piede brutto vuol dire essere proprio degli ignoranti che non capite un cazzo. Allora ragazzi, grande scontro qui tra Paolo Mocavero e Sergio Bellato. Troppo. Allora no, Mocavero, non ho capito cosa c'è, perché gli hai detto le peggio cose, cacciatore di merda, deve morire. Ho, ho detto quello che penso di lui, ladro, eccetera, indipendentemente dall'uomo. Ma poi a noi delle vostre cause, che ce ne frega a noi chi ha vinto e chi ha perso? Beh, sei tu che chiami, se ti chiami. No, ma non me ne frega niente delle cause tra di voi. No, io volevo dire la causa, gli ho già detto che lui con me ha sempre perso. Punto. Lui sostiene un'altra storia. Vabbè, vuole raccontare ai suoi amici che lo votano, che lui dice, ma come ha sempre perso, muto e rassegnazione. Punto, ma cosa cambia? Punto secondo, cambia che non può dire che vince perché perde sempre. Punto secondo, quelli come me e tanti altri animalisti hanno un lavoro, lavorano, magari lavori santuari, quello che è, perché si conosce gli animalisti, fanno fatica a arrivarci nel mese, ma lavorano dignitosamente. Questo signore non si deve permettere mai di dire che gli animalisti lo lavorano, perché lui sono 40 anni che non fa un cazzo, che prende soldi. Ma che vuol dire non fa un cazzo? Ma lavora nel suo mestiere, che cazzo vuol dire non fa un cazzo? Non si permette, ha messo il genere in regione, ok? Ha messo la moglie, ha bruciato. Ma che vuol dire ha messo? Ma gente che viene eletta, no? Ma cosa vuol dire? Non è che uno mette. No, in realtà sono assistenti. Ma sono assistenti, d'accordo? Ma adesso lascia perdere le polemiche di assistenti. Noi siamo qua a parlare. Lui ha fatto un'accusa. Io non ho mai fatto un cazzo la vita, a parte che mi batta il Federino perché Gottardo veniva sotto la console ed era pieno di fighette anche Gottardo, è diciamo quello che è giusto. Verissimo, al VAG di Padova. Quindi che mi rompe i coglioni, che avevo 5.000, avevo 5.000 che mi seguivano. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Che mi rompa i coglioni, che mi batte al culo, che sono stato al cocorico fino a... Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Nulla questo. Che non dica che non lavoro, che il lavoro mio è stato sempre dignitoso. Dice che sei un nulla tenente perché quando hai perso le cause evidentemente non potevi pagare un cazzo. Ma questo qua lo dice lui, è una grande cagata, lui non ha vinto un grande... Come fa a sapere se sono nulla tenente se non ho mai vinto un cazzo? Me lo spieghi questo discorso qui? Ma non lo so, guardate, a me delle vostre cause non me ne frega niente. Semplicemente gli hai detto che è un cacciatore di merda, che devi morire, che è un ladro, e che cazzo, ragazzi. Ha ragione di difendersi. Io ti sto dicendo che su questa qui non contesto nulla di quello che ho detto io. Io, come tu sai e mi conosci, mi prendo sempre la mia responsabilità, ma non accetto che uno che dica che gli animalisti non fanno un cazzo, perché è proprio lui che allora non fa un cazzo. Allora, ho fatto tutto un calcolo, come a Porta a Porta. Berlato, 30 secondi, 30 secondi a Berlato, 30 secondi, vai Berlato, 30 secondi. Intanto voglio ricordare che io sono stato eletto 3 volte in regione e 4 volte al Parlamento Europeo con le preferenze, e ho più del 94% di presenze sempre. Vuol dire che io lo stipendio me lo merito e vedo di essere all'altezza della fiducia che mi è data. Mogavero, se uno c'ha il voto dei cacciatori, mica è il voto della mafia. Mogavero, scusami, cioè, ma se uno ha il voto dei cacciatori, non è la mafia. Vabbè, non è la mafia. Fa parlare Davide e Godardo. Ma non è la mafia. Tu pensi che tu stai paragonando i cacciatori alla mafia? Ma perché mi metti cose che non ho detto? No, ma tu pensi io che. Sto dicendo che lui, grazie all'attività di merda che fa, lui non fa un cazzo mattina a sera. Ma che vuol dire non fa un cazzo? Dai, ragazzi, fermi. Fa qualcosa, allora è bene se fa qualcosa. Ciao, ciao Berlato, ciao. Clara da Ferrara, vai Clara. Buonasera Cruciani. Dimmi. Allora, io ho telefonato per dire che non mi piaci per niente che sei volgare, maleducato, che attacchi continuamente Parenzo, che al contrario è una persona educata e informata. Molto e quindi gentile, io sono grazie. Stanca questa situazione. Sì, tu sei patologico, sì. Cruciani. Sì. Questo è anche un po' è così. È molto così, assolutamente. Sì. Clara, scusi, lei quanti anni ha, Clara? Grazie per aver chiamato. Io ho 58 anni. Scusi, educata, perché gentile. Ascolta questa trasmissione dove si fanno delle grandi battaglie, dove si parla esplicitamente di sesso, dove si parla esplicitamente di sesso anale anche, per esempio? Sì. Vi ascolto ogni tanto, ma lei, quando parliamo di sesso anale, quando parliamo di come dire, di problemi del sesso anale, quando parliamo di rottura del pene, come è successo questa sera con un urologo che ha chiamato dalla Francia, e lei che cosa prova dentro di sé? Cosa prova? Io non provo un bel niente, non sono problemi che mi appartengono. Lei ha un'attività sessuale normale? Normale, normalissima, da 58enne, quindi è tutto sposata, normale. Fidanzata, sposata, ha un compagno? Sposata, tranquillamente. Ancora? Però, da quanti anni è sposata, signora Clara? Sono sposata da 35 anni. Da 35 anni immagino che lei in questi 35 anni abbia progressivamente smesso di scopare. Mi pare abbastanza evidente questo qua. Sarebbe un caso clamoroso. Posso parlare? Prego. C'è ancora un'attività sessuale forte oppure no? Rispondo progressivamente, lei ha detto progressivamente ha smesso di, non è vero, non questo è vero. Forse varrà per lei ma non per me, ovviamente a una certa età con la menopausa, l'andropausa, c'è un calo, questo è evidente, quindi è, lei con suo marito è oggi quante volte lo fa, diciamo, in maniera immagino tradizionale, non è che fate, cioè non fate cose incredibili, lei non, secondo me non ha mai fatto sesso anale, lei, cara Clara, cioè, questa è la mia, allora, la mia modesta opinione è questa qua, lei non ha mai praticato il sesso anale, posso dirle? Allora, io la lascerò nel dubbio, non ho telefonato per, ma mi chiama, mi risolva questo dubbio in 35 anni, risolvo un bel, mi risponda a questa cosa qua, perché in 35 anni, in 35 anni, secondo me, se lei non ha mai fatto sesso anale con suo marito, le manca qualcosa. Questo lo sta dicendo lei non sa nulla di me. Io sono disperato, sono disperato. Stanca, sì, che lei ha, anch'io sono stanco. Sono stanco del fatto che ci sono persone che in 35 anni di matrimonio hanno scopato solo con una persona. Lei è patologica, lei ha una patologia che è quella della monogamia. Lei non sa niente di me e io non le sciolgo questo dubbio. No, così ma le è chiaro che lei è monogama. È chiaro che lei è monogama. E me ne dispiace, mi dispiace per lei. E poi è patologico nel voler aver ragione. Lei non sa niente di niente e per telefono. Io voglio capire una cosa, ha già fatto tutti i suoi commenti. No, Clara, io le voglio bene. No, io non le voglio bene. Io invece sì, le voglio bene. A me piace Parenzo. La abbraccio fortemente. Grazie, signora, io la abbraccio. Grazie molto. Grazie. Io la abbraccio. Buona trasmissione. Mi permetto di dire da te perché sei un maleducato zozzone. Mi permetto di dire a Clara. Liberi a 58 anni il suo corpo, la sua mente, si faccia una chiavata con qualcun altro, la monogamia non va bene per 35 anni, se lo faccia dire, a 58 anni si liberi da qualche cosa, perché qualche stimolo sessuale ce l'avrà, va bene. Oltre suo marito. L'ascolterò, Cruciani. Grazie. Abbracci, cara signora, grazie. Giusto, appunto, abbiamo un collegamento, una neosposata, incredibile dictu, che è sardo, direbbe qualcuno. No, incredibile dictu, no, è sardo, è no? Latino. Ah, scusami, non sapevo, scusa. È latino, Valentina Nappi, eccoci qui. Sposata. Buonasera. Allora, è vero, Valentina, che partiamo subito da questa cosa qua. La cosa incredibile è che tu ti sei sposata. Immagino. Non ti sei incredibile. No, aspetta, infatti sono pronto a ricredermi. Allora, ovviamente non ti sei sposata in chiesa, diciamo, mettiamo le basi. Siamo entrambi atei, quindi in chiesa no. In chiesa no, però una piccola contraddizione c'è. Certo. Una piccola contraddizione tra il matrimonio di Valentina Nappi e il... Non dico il libertinismo. La professione, no, perché non è che le porno attrici non si possono sposare. Però qualcuno ci vede una piccola contraddizione tra il matrimonio e un'attività sessuale, diciamo, libera, o no? Allora, io sono per la famiglia. Ah, ecco, questo è importante. Tu sei per la famiglia. Io sono per la famiglia. E sono per la protezione della famiglia, sono per il valore della famiglia. Vedi, interessante questa cosa. Ma non quella tradizionale. Sì. Che rinnega un figlio gay, è capitato a Napoli, del fratello che ammazza la sorella d'accordo. Certo. Sì, non sì. Sono per... No, ma perché quella tradizionale è così. Ma mica tutta la famiglia tradizionale. I ruoli di genere così ingestati che portano poi a una violenza all'interno, cioè, della famiglia. Cioè, tu dici, che l'ha detto, ma attenzione, però tu stai, Valentina sta dicendo una cosa interessante. Sì, sta ma non dicendo, è vero che la famiglia tradizionale non necessariamente i bambini o però i ragazzi omosessuali. Però le peggiori turpitudini, persino Vittorio Feltri in questa sede, in questa radio, in questa trasmissione, disse, ragazzi, nelle famiglie tradizionali avvengono le peggiori turpitudini. Lui ne è un esempio. È una lui realtà. Lui ne è un esempio. Sarà un esempio anche lui. Guarda che trauma devi avere per fare il direttore di Libero. Cioè, che trauma devi avere. Sì, quello d'accordo. Oggi però è una fallacia domina in parenza. Però è anche vero, Valentina, che non mi piace Libero. Nella famiglia tradizionale succedono le peggiori turpitudini. Su questo ti do ragione. Però sì, tu sei a favore della famiglia. La famiglia, diciamo, di qualsiasi tipo. Io sono a favore della famiglia. Ma che matrimonio è stato? Dove l'avete fatto? Abbiamo tutti bisogno di stare in un nucleo in cui ci si sente amati e protetti. Certo. Quindi sono assolutamente per la famiglia. E dove vi siete sposati? In comune. In comune, tranquillamente. Bene. Avete fatto qualche festa, qualche cosa? No, un'orgia. Niente. Un'orgia. Certificato, ma per convenienza, per una questione burocratica, COVID, perché? Quindi purtroppo. Allora, dato che viviamo insieme, stiamo insieme da 11 anni, perché non godere dei diritti dei sposati? Dei sono le due. Ah, ho capito. Insomma, una cosa un po' mezza burocratica, per dire, pigliamoci qualche vantaggio dal fatto che siamo sposati. Ma va bene, per carità, ma è giusto. Però tu aggiungi, sono anche a favore in generale della famiglia, degli affetti, del mettere insieme degli affetti, giusto? No, secondo me la famiglia è proprio un valore. È un valore. Io riconosco il valore come famiglia, purché non lo si usi. Senta, per signora, fare il signora contrario Nappi, di quello che dovrebbe essere la famiglia. No, io tra l'altro sono così d'accordo con Valentina, che secondo me quelli che sono contro la famiglia tradizionale, quella cattolica, quella che ci è stata tramandata, il problema sono i valori, non sono i membri della famiglia, cioè il problema della mamma e il papà con i bambini, è la cultura che viene propagata. Assolutamente, sono d'accordo. Una famiglia può essere anche di 3, 4, 5, una persona e mezza, uno. Sì, l'importante è che ci sia, un nucleo da chiunque sia composto e di qualsiasi sesso. Tu, per esempio, potevi sposarti tranquillamente con una donna, magari, no? Se avessi voluto bene ad una donna. Purtroppo, però, non avrei goduto degli stessi diritti. Giusto. Gottardo, come volevi intervenire? Dobbiamo dare il matrimonio tale quale ai gay. Sì, uguale, pure secondo me, uguale, identico, pure io lo farei, una proposta del genere, in una riga, il matrimonio si può applicare anche a persone dello stesso sesso nel codice civile. Gottardo, cosa vuoi? Premettendo che sono un grande fan di Valentina Nappi, io sono terrorizzato dal fatto che Valentina Nappi lasci il mondo del porno, poi. Ma se chi lei l'ha detto? Perché dovrebbe lasciare il mondo del porno? Adesso, si ecco è sposata, il maiale. No? Ecco qualora lei abbia dei figli, lascerà il mondo del porno oppure da mamma poi farà un grande rientro nelle scene? Non ho intenzione di avere figli, ma comunque no, non lascerei, a parte per quei 9 mesi di gravidanza, non lascerei. Ecco, ma perché non hai intenzione di avere figli, Valentina? Cioè, tu non ti mai venuto... Siamo troppi al mondo, ma non lo vedi che siamo troppi? Il casamento globale, non si trova parcheggio. Ma che c'entra questo col desiderio di avere un figlio? Però non c'entra niente. Parenzo ne ha fatti 4, Valentina. Scusa, questa piccola premessa da fare. Beh, Parenzo è un egoista. No, questo è interessante come cosa. Ma è il contrario. No, no, no, no. Figlio è un gesto di egoismo. No, ma è il contrario. Ma bisogna prendersi la responsabilità verso la società. Io sono d'accordissimo. Anche quando si dice l'utero è mio, lo gestisco io, ok. Però nel momento in cui metti al mondo un'altra persona, non ha più a che fare con il tuo utero. Ma come no? Ma che dici? E basta. No, non ha più a che fare con il mondo. Ha a che fare con il mondo, ha a che fare con la sostenibilità del mondo, dice lei. Finché quando il bambino è all'interno di te. Ma nel momento in cui il bambino non è più dentro di te, ma questa è una follia. È una responsabilità che ha a che fare con la collettività. No, però è vero una cosa di quello che dice Valentina. Si può discutere su questo, naturalmente, eccetera. Però ha ragione su un punto. Il punto è questo: che è un atto di egoismo assoluto. Questo è sicuro. Sì. Tutt'altro, è di generosità. Ma quale generosità? Di fiducia nei confronti della vita. Ma no, egoismo. Uno lo fa per egoismo. È esattamente il contrario. Quelli che non hanno figli preferiscono legittimamente vivere la loro vita e i loro soldi senza dover mantenere delle persone. No, è un atto di egoismo. Tu in quel momento fai un figlio per egoismo, cioè per fare un figlio perché vuoi un bambino. Perché qualcuno ti ha chiesto di fare un bambino. Ma qualcuno chi? No, ma se qualcuno tu chi? Sei tu che hai il desiderio di riprodurti. Certo. Senti, Valentina, tu di tramandare i tuoi geni. Ma io non condanno chi non lo fa. Però posso dire una cosa, ragazzi, spostando. No, hai detto che è un atto di egoismo. Poi dipende ho dai detto tempi che potrebbe, ovviamente, se ci fosse che, la peste no, magari in alcuni casi senso. È un atto di egoismo. Posso non dire, cioè, uscendo in, da questa... in caso di epidemia in caso di epidemia Valentina Nappi sarebbe per poi la procreazione, quindi è un problema di sovraffollamento il suo. Se ci fosse un pericolo per l'umanità, un pericolo di COVID, dimezzasse la popolazione mondiale, in quel caso potrei valutare di fare un figlio. No, posso dire una cosa? Allora, tra l'altro, c'è un punto in comune tra Parenzo e Valentina Nappi. Sembra incredibile, ma entrambi hanno votato, io con molto meno entusiasmo, per il no al referendum. Anzi, Valentina ha detto pure che proteggiamo la Costituzione. Vuole anche fare un partito di destra. Perché vuoi fare un partito di destra? Era una battutaccia. Però c'è stata la sconfitta un po' di Salvini, il fatto che non abbia vinto in Toscana, un po' ti rallegro, oppure non te ne fotte un cazzo della politica di queste robe qua? No, me ne frega, vorrei non fregarmene, devo dire, perché è una sensazione che tanto non... Cioè, a me personalmente non mi cambia nulla, quindi volte penso forse dovrei cominciare a smettere di farmi il sangue amaro e quello in generale, perché altrimenti si ha un approccio poco razionale alle cose. Però? Però purtroppo bisogna interessarsene. Però vabbè, comunque, insomma, tanto è andata pari, hanno finito pari, che cazzo. Sono curioso curiosa di vedere come evolverà. Ma tu non pensi mai di andare in Parlamento, per esempio? Sarebbe straordinario, una nuova, una porno, sì, dopo Cicciolino un'altra in Parlamento. Guarda, mi che tu piace troppo la mia vita per mettermi. Ma che la puoi continuare tranquillamente, cioè la puoi continuare senza problemi. Una cosa non esclude l'altra. Ma assolutamente. Senti, tu hai detto una cosa. Non hai tempo per far porno. Ma in Parlamento, Nappi, le piacerebbe avere un rapporto con qualcuno dei parlamentari? C'è qualcuno che le fa sangue? Oh mamma. Ma ancora con sta cosa? Cioè, ma che... qual è la media? L'età. Ma la media di età è alta. Sarà 50, credo. No, di più. Di Maio, per esempio, Di Maio, no? No, Toninelli. Ma di Maio, Di Battista. Ma no. Nessuno di questi. Ma no, ma figuriamoci. Aspetta, Valentina, che ti ho perso. Mio marito sta chiedendo se ce lo vedi un presidente del Consiglio con il suo taglio di capelli. Con il taglio di capelli di chi? Di mio marito. Di tuo marito? Che ne sappiamo? Con il ciuffo così. Adesso ha un Pokémon disegnato sulla testa. No, ma non me lo passare, quello comincia a bestemmiare, se no un disastro qui. Dice, ma c'è carcerano tutti. Senti una cosa, ma tu hai detto una cosa nei giorni scorsi che ha fatto molto discutere il web, che è quella della masturbazione in pubblico, no? Parenzo si è scandalizzato. Ma no, scandalizzato è una porcheria, dai, questo deve scandalizzarsi, figuriamoci. Allora. Parenzo, tu sei una porcheria, sei un antimoderno, il porco ma sei scusi, tu. Però scusi, non è che sono antimoderno perché dico che non ci si masturba in pubblico, cara signora Nappi, per carità. Ho molto rispetto per le sue opere d'arte, per le sue per i suoi mucchi. Va benissimo. O cominciamo ad avere un approccio razionale. Ma razionale cosa vuol dire? Masturbarsi in treno? Altrimenti resteremo sempre nella situazione in cui ci troviamo adesso, che poi non è molto diversa rispetto a quando eravamo nella giungla e sempre facevamo selezione sessuale come lo si fa adesso. Signora, ma perché uno deve farlo in pubblico? Che porcheria è? Perché il sesso si deve buttare, deve essere come l'aria, deve essere ignorato. Ci deve stare così tanta figa e cazzo in giro che deve essere ignorato. Ma ci sono, ma che bisogno c'è di farlo in pubblico? Non c'è. Ci sono delle regole normali di convivenza. Se ci sono ragazzi che allungano le mani, significa che perché non toccano abbastanza pubi. Perché sono repressi, perché gli hanno insegnato a fare i predatori e alle femmine hanno insegnato a fare le fighe di legno. Perché tu dici che ci sono troppe fighe di legno in giro e bisognerebbe darla più facilmente, questo è un tuo classico, diciamo. Sicuramente c'è una componente probabilmente biologica del fatto che le donne giocano a farsi rincorrere e gli uomini a rincorrere. Per cui tu consideresti alle donne datela il più possibile, insomma, per cioè come se anche meno stupri, cioè se le donne la dessero più facilmente ci sarebbero meno stupri, questo mi sembra. Probabilmente sì. Probabilmente la tesi di Valentina Nappi, se le donne la danno più facilmente ci sarebbero meno stupri. No, in realtà non è una mia tesi, per esempio nei paesi dove c'è più prostituzione legale eccetera, statisticamente ci sono anche meno stupri. No, ma io sono a favore della legalizzazione della prostituzione, per cui va benissimo. Ma i molestatori come li consideri te? Cioè, allora, altra polemica. Perché secondo me mettere sullo stesso piano chi ti dice oh bella per strada e chi invece ti tocca è pericoloso. No, ma nessuno le mette sullo stesso piano, infatti. No, ormai si è arrivati. Ormai non è vero. Vai su Twitter. No, ma si arriva ma nessuno lo mette sullo stesso piano. Dai, non diciamo sciocchezze. Come no? Ma non è così, signora. Dai, ma che dici? No, ma è così. Se uno dice, se uno dice oggi che bel culo che hai, che bel culo che hai. Vabbè, è un'espressione infelice. Se dite, dipende da che contesto. Non è che per strada vedi una e gli dici così, perché è una maleducazione. Ma sarà un cafone, ma non lo si può considerare molestia. Dai, su, ormai. Magari a qualche donna può dar fastidio, invece lo può vedere in modo. Ma anche a me dà. E allora, fastidio. Questo è il tema. Certo, solo questo. Però cioè, se tu vedi uno che si masturba in pubblico, lo faccio arrestare come minimo. Tu invece che fai, Valentina? Ma se mi piace, potrei approcciarlo. Addirittura. Se non mi piace. Ah. Perché no? Oppure lo ignori. Ma c'è un posto, un luogo per ogni cosa. Questo che lei non capisce, cara Nappi, c'è un posto per ogni cosa. Uno e se sta. Ma chi lo decide? Ma mi sembra evidente, non è che uno sta in piazza di Spagna e si tira fuori l'arnese e fai su. Ma perché non è così del mondo civile? Che significa? Me lo devi spiegare. Ci sono dei luoghi dove farlo, le camere da letto, i posti chiusi, non è che uno si mette in piazza. quali sono i vantaggi di questa cosa? Ma mi sembra evidente. No, a me non sembra evidente, me lo devi spiegare. No, secondo lei la gente voglio gira per strada, voglio concludere con questa cosa. Strada. Io sono un po' dalla parte di Parenzo, devo dire la verità che la teoria della Nappi mi affascina, cioè quello del fatto di considerare molte cose che noi consideriamo oggi, diciamo, riprovevoli. Mi devi spiegare quali sono i vantaggi di masturbarsi a casa e non in pubblico. Allora, voglio concludere con questa cosa. Parlavamo prima, ci sta l'esibizionismo. Parlavamo prima di frattura del pene. Ti è mai capitato di aver fratturato il pene a qualcuno sul set, Valentina? No, però ho diversi colleghi che hanno avuto il pene fratturato, delle operazioni a causa di una frattura del pene. E l'ultima gangbang quando l'hai fatta? Purtroppo 2-3 anni fa. Ma 2-3 anni fa l'ultima gangbang? Sì. Ma cazzo, ma com'è possibile, scusa? Ma non sono, cioè, questa idea che no, no, io non ho nessuna idea. Purtroppo cioè... le gangbang, cioè, si fanno poche gangbang durante la carriera, perché costa pagare tanti attori. E tu in privato non le fai mai? Convincere. In privato non le fai mai, no? Solo sul set. Cruciani, gli uomini non vogliono dividere la donna. Certo. Proprio hanno voglia, oppure perché... si accontentano, finiscono comunque per avere così tanti problemi di erezione che per me diventa più una scocciatura che un divertimento. Quello anche è vero. Intanto da dietro parla il marito. Ecco, vi abbraccio, ciao Valentino, ti abbraccio, ciao, a presto. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ora! È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.